passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora non fa l'amore. Lavoratori. Parenzo, un governo propose, non mi ricordo quale, la cancellazione delle feste. La cosa mi rallegrò. Governo Berlusconi. Pensavo, non mi ricordo, non mi interessa, per me è la stessa cosa. Ero contentissimo, perché forse per me tutte queste feste andrebbero eliminate, ma non per motivi politici, in generale le feste mi deprimono sì, moltissimo i giorni di festa. Lavorare sempre 7 giorni su 7, certo. Non avere più il tempo di amare, di sognare, di viaggiare, di leggere, di ridere, di scherzare. Però qui abbiamo il tempo per rotolarci nel fango. Abbiamo sicuro, sempre sì, il tempo di rotolarci nel fango. E allora, per iniziare. Però c'è il diritto all'ozio. Invece io bisogna teorizzare il diritto all'ozio, il diritto a amare, il diritto a leggere dei libri, il diritto a non fare anche un cazzo. Hai capito? Il diritto a non fare nulla per qualche giorno. Allora, ho fatto un calcolo. Bossi, 70 anni e di oggi si ricandida sì, al leader della Lega. Non è scherzi a parte, è tutto vero, si ricandida all'iter della, come se nulla fosse accaduto in queste settimane. Bondi, 77 anni, signor Bondi. Hai saputo, sì? Hai letto i giornali, no? Ne abbiamo discusso anche ieri, ma che taglierà la spesa pubblica, sì, hai ragione, mi ero dimenticato. Dovrebbe tagliare la spesa pubblica. Amato. Giavazzi è un po' più giovane. Amato, 73 anni, non sto facendo l'elogio del giovanilismo. No, c'è però qualcosa che non torna. Amato, 73 anni, che studierà come colpire partiti e sindacati. Sai quanto fa? Ma come studierà? Sai quanto fa questa somma? 70, no. 77, 73. 220. Ti voglio ricordare quando inseguivi Amato per una battuta sulle pensioni, perché poi Amato, come sapete, 31.000 euro di pensione. David Parenzo alle prese con Giuliano Amato, sentite. Professore, possiamo farle un paio di battute? No. Questione delle pensioni? No. Professore? Non faccio battute di nessun genere. Sulle pensioni, no, sulla riforma? Nulla, nulla. No? No. Ci avete politici in servizio. No, perché volevamo capire per il futuro proprio del paese sulla questione delle pensioni. No, non faccio. Chi non lavora? Vabbè. Non faccio battute, chiuso la porta. Nel 2007, abbiamo già un ospite in linea, nel 2007 Grillo lo mandò letteralmente a fare in culo. Beh, anche questo non è nuovo, ma a fare in culo mezzo Parlamento. Questo pure è vero, sentiamo. Veri quando eri presidente dell'antitrust. Forse eri all'università a studiare Platone e intanto ti sfuggiva di mano il caso Parmalat, il caso Telecom, i bond argentini. Vaffanculo! Bossi si ricandida, eccolo qui, mi candido segretario, Robe de Matt, sentiamo. Si candiderà come segretario federale adesso al congresso? Ah, per forza, quindi si candiderà anche lei insieme a Maroni? Sì, ci sono la gente. Lo fa per la gente, si candida per la gente? Per il movimento, lo faccio per il movimento. Va bene. Lo faccio per la Tanzania, per il popolo della Tanzania. Scusi, senatore, per chi lo fa? Mi candido per la Tanzania. Tanzania libera, Tanzania libera. Va bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, in diretta anche su TGCom 24, è con noi il meraviglioso direttore di Rai 4, Carlo Freccero. Beh, buonasera. Come andiamo? La sento lontano. La sento lontano, Freccero. Vi siete adesso? Vi siete Ecco, forse è meglio, non lo so, forse è meglio. Vede, forza. Forza, andiamo. forza, andiamo. Allora, conferma innanzitutto questa candidatura, questo ticket con Santoro, tutto confermato, sì? Bene. Tutto confermato, cioè. È un metodo, non è una candidatura. Beh, come un metodo? Certo, abbiamo imposto un metodo per scegliere le persone in Rai. Che è quello dei curriculum, no? Dei curricula. Dei curricula. Però è una cosa seria, cioè non è una finta, vi candidate sul serio. Assolutamente, assolutamente. Sento una cosa, ma a Monti l'avete spedito direttamente? Cioè, come funziona questa cosa? Avete fatto il curriculum, qualcuno ve l'ha scritto, era già pronto? No, me lo sono scritto, nessuno me l'ha scritto, nessuno, cioè me lo sono scritto, sì. Sono scritto i documenti, verranno spediti, ho preparato anche un documento circa la cos'è il oggi del servizio pubblico, sì. Non so come verrà consegnato, io spero di consegnarlo alla commissione di vigilanza, cioè sì, un atto sì. formale, un atto in cui si fa una come in altri paesi, insomma, sì, a parte la BBC che ha fatto questa candidatura addirittura attraverso internet, ma io penso anche che si fa così anche. Cioè lei se l'è scritto di suo pugno, eccetera, ha legato dei documenti su cosa intende per servizio pubblico e lo vuole consegnare alla commissione di vigilanza. Esattamente, dica presente che poi oltretutto questo mio curriculum è disponibile anche attraverso Wikipedia, eccetera, sono tutti quanti benissimo che io ho iniziato nel 79 a lavorare in TV. Sì. Perché ho fatto la TV commerciale. Sì. Senta, ma lei dunque, lei presidente e Santoro direttore generale. Ora voglio dire, per esempio, oggi la Rai ha un presidente che è Garimberti, no? Paolo Garimberti. Allora, tra lei e Garimberti, per esempio, chi è più competente? Ma qua aspetta qualcuno, un giudice. No, ma per esempio, se deve vedere il curriculum di uno dice, lei dice giustamente, per fare la televisione bisogna essere competente, certo. Bisogna presentare un curriculum. Sì. Da questo punto di vista, diciamo, tra l'attuale presidente e quello che si propone come presidente, cioè Carlo Freccero, chi è più competente? In televisione? In televisione, certo. La Rai che fa? Io credo, insomma, di avere anch'io le mie chance. Lei è più competente di Garimberti. Scusa, no? Freccero, un conto chi ha diretto, cioè Garimberti ha fatto il giornalista per la carta stampata. Garimberti ha fatto il giornalista per la carta stampata. Freccero dal 79 che maneggia la televisione, il tubo catodico, ma questo non c'è dubbio. Lei è più competente, si sente più competente di Garimberti, no? Sulla televisione, diciamo francamente, un po' sì. Certo, diciamolo, non c'è dubbio. Uno bravissimo, il giornalista bravissimo, figuriamoci. No, ma molto bravo, però io devo dire che ho fatto un po' anche due tipi di televisione, tre tipi di televisione, sì. La TV generalista, la TV satellitare e la TV digitale, due paesi, Italia e Francia. E Garimberti che ha fatto in televisione? Niente. Ho fatto il TG2, credo. Il TG2, sì, il TG2, sì. No, ma credo che... Vabbè, c'è un abisso, insomma, no, diciamolo. No, questo qua che è bello, quello appunto ci saranno dei criteri oggettivi per stabilire chi è il migliore. Non sarà a me a decidere. No. È un problema che viene posto in qualche modo molto chiaro, molto sì. Cartesiano. Senta... Uno presenta la sua storia, sì. Presenta le cose che ha scritto, sì, delle sì. cose di cui ha fatto, eccetera. Senta, Freccero, però qualcuno dice, io adesso le leggo qualche critica che lei avrà letto, no? Per esempio, uno del Partito Democratico che dice Merlo dice una cosa da carnevale, uno del PDL Butti che dice siamo in Corea del Nord. Però al di là di queste cose politiche che ci stanno, fanno parte del gioco, molti dicono: beh, insomma, non hanno la competenza amministrativa ed economica, insomma, dirigenziale necessaria. Né lei né Santoro. Un conto è fare il palinsesto, un conto è amministrare soldi. Lei come risponde a questa critica? Allora, io non mi candido come direttore generale, innanzitutto, mi candido come presidente. Sì. Ho già fatto il presidente di RaiSat e con tutte le deleghe editoriali io credo che sia stato veramente molto bene, tant'è vero che è avvenuto, cioè su questo RaiSat si è creato un problema. Perché cioè anche coi conti lei ci sa fare, questo vuole dire? Sì, ma io, il presidente non si occupa di conti. Vabbè, ma comunque bisogna avere un'idea più o meno generale. RaiSat è stato un piccolo gioiello, insomma, tant'è vero che si è aperta una disputa tra Sky che voleva mantenere appunto il bouquet della Rai e la Rai invece che voleva valutare in modo superiore questo bouquet. Cioè, voglio dire, oggi in Italia ci può essere, la domanda è molto semplice, molto diretta, ci può essere un... Scusi, mi lasci terminare sì, un attimo. Sì. Naturalmente il presidente, cioè, deve avere porre in qualche modo avere un ruolo più, diciamo così, porre al centro del problema le politiche culturali sì. delle, del gruppo della RAI, deve in qualche modo avere una funzione deve, più editoriale che amministrativa. Ecco, per il Foglio, per esempio, per il Foglio, per Giuliano Ferrara siete poco equilibrati, cioè sia lei che Freccero siete poco equilibrati. Avete dimostrato poco equilibrio per fare i dirigenti della RAI. Ma mi rifiglia proprio di Ferrara, cioè io sono stupito perché io ho lavorato con chiunque in RAI, con chiunque, destra, sinistra, centro, ho lavorato addirittura con Ferrara, io ho portato Ferrara in RAI, cioè non so cosa vuol dire, cioè, ma mi sembra così, non lo so, sono stupito perché se lo dice Merlo non so meno chi sia Merlo, per cui non è uno del Partito Democratico che si occupa di RAI, insomma, vabbè. Non lo conosco. Senta, ma a Ferrara lei, se fosse lei oggi alla guida della RAI, continuerebbe a far fare il programma alle 8:30? Ma guarda, qui sono molto... posso spiegare una cosa? Io ritengo che sia un errore quello di averlo collocato dopo il telegiornale e spiego anche il motivo. Sì. Ferrara ha fatto un programma molto bello che era appunto Radio Londra su Canale 5 quando non c'era il telegiornale. Sì, e quindi in questo modo era l'unica fonte di informazione, era quando la RAI, quando le medie non potevano... Dove lo metterebbe lei? Io proprio c'è la regola proprio così vi racconto, non si mette mai l'approfondimento di Ferrara dopo il TG1 che sono dello stesso tipo, hanno la stessa visione eccetera. A me piace giocare Ferrara in contrapposizione, cioè a me piace fare sempre cane gatto, mai cane cane. Cioè Rai 3. Ad esempio lo troverei una scelta giusta, oppure anche perché o no un programma culturale, un programma di seconda serata. Ferrara ha fatto un comunque non lo toglierebbe dal palinsesto, diciamo. Ma ci mancherebbe altro, ma lo sapete benissimo. Ma sì, io lo so che lei è un liberale. Ma proprio se c'è una cosa che io detesto è l'uniformità, è l'identità. Pensa Parenzo, ma Freccero, che ascolta anche me Freccero. Solo Frecce, con questa genialata di Ferrara dovrebbe subito chiamare la come si chiama lì, dovrebbe chiamare lei, diciamo Ferrara dovrebbe chiamare lei subito. Sì, ha ragione, dire, Freccero, vado a Rai 3. Su Rai 3 perché è più valorizzato, ma chi se ne frega di fare il traino di una roba tutta uniforme. Un attimo, ho il traffico, torno subito. Il traffico. Stupire. Chi non lavora non fa l'amore. Eccoci qui di nuovo in diretta alla Zanzara, 18:48. Abbiamo iniziamo con Parenzo, naturalmente in collegamento da Roma, con Carlo Freccero, direttore di Rai 4, neo candidato alla presidenza della Rai insieme a Santoro, che si trova credo a Savona. Senta Freccero, lei per esempio con Vespa cosa farebbe del programma di Vespa? Vespa fa un programma che ormai è un po' usato, un po' usurato, ecco. Però ad esempio una domenica pomeriggio Vespa è perfetto, straordinario. Questo è buono, domenica pomeriggio non è male. Perché riesce a fare sia l'infotainment che l'informazione. Cioè domenica in, una sorta di domenica in. D'altra parte è iniziato così lui, oltretutto, ve lo ricordo molto bene, e l'ha fatto con risultati ottimi. Potrebbe essere una domenica anche così di approfondimento. E chi porterebbe, diciamo, dell'area, diciamo, cosiddetta di destra in una RAI? Che ne so, Belpietro, per esempio, la telefonata di Belpietro. Dove? Alla RAI? Alla RAI, sì. Belpietro lavora già a Mediaset, mi sembra. Sì. Si potrebbe togliere qualcuno a Mediaset. D'altra parte comunque Belpietro è sovente in RAI, fa interventi. A voglia, come no? Come, anzi, ha una presenza massiccia. Ma lo porterebbe alla RAI a fare un programma? No, non è tagliato per fare un programma? Non lo so, cioè, bisogna vedere un attimo che tipo di programma. Cioè, ecco, una cosa è certa. Sì. Bisogna lavorare con molta libertà, cioè non ci sono, bisogna più avere una filosofia di ogni rete, che ogni rete deve avere questa sua filosofia, deve avere una sua coerenza. Senta, ma da chi è che ha ricevuto appoggi, incoraggiamenti per questa cosa? Ci faccia un nome di persona che l'ha chiamata e diceva vai avanti, Freccero, io l'appoggio, di persona insomma. Tantissimi studenti, tanti giovani, politici. Politici? Ah, io non ho contatti con politici. Vabbè, qualcuno che l'ha chiamata così, Carlo, qualcuno conoscerà, no? Lei Giuseppe mi conosce, io sono un tecnico. Sì. Veramente che non mescola politica e televisione sono io. Ma a Mediaset tornerebbe lei? E perché no? Alla 7? Alla 7, se, no. Alla 7 tutto farebbe, adesso qualcosa le piacerà di più, diciamo, no? Qualcosa, no, a me piace molto il lavoro che faccio, l'ho fatto da... Per esempio Santoro era dato in trattativa, è dato in trattativa anche con la 7, non è un po' strana questa cosa, oppure fa parte del mercato, uno si candida alla, diciamo, alla, come direttore generale... Comunque l'ha detto lei giustamente, è il mercato, è che io credo che sia molto importante, cioè riaprire il mercato. Se Santoro va alla 7 lei lo seguirebbe? No, non c'è perché via seguirlo, cioè, questo qua è un progetto per la RAI, cioè, magari è un ticket spendibile anche per la 7, non solo per la RAI. Poi quando si parla di aziende private, ogni azienda ha delle sue strategie, sì. Io mi sto parlando del servizio pubblico e cerco di porre appunto un'esigenza, un'istanza, sì. Le scelte non sono fatte in base all'obbedienza, ma diciamo anche in base un po' alla competenza. Ecco. Sì, no, certo. Senta, Parenzo, ma c'è una domanda che voglio fare, che è questa qua, no? Sì. Cioè, adesso non è che vogliamo riaprire le polemiche, però c'è una frase che mi colpì, perché ancora non ho trovato una spiegazione, so che poi c'è una causa in corso, ma lascio perdere la vicenda telefonata, la vicenda della lei che è amica dei cardinali pedofili, ma che cosa voleva dire con quella frase, Freccero? Mi scusi se torno su questa vicenda, però... Sa... riguarda una telefonata che non ho fatto pubblicamente, eccetera, quindi era, allora vi spiego una cosa, per fare una rete uno ci impiega veramente tanto amore, sì, come sì. Veramente è un lavoro difficile. Però io non voglio tornare sulla polemica, volevo capire una spiegazione di questa frase. Ma dai, ma molto semplice, quando io vidi quell'articolo, il titolo del, sì, del Libero, di Libero, sì. Rai in onda. Vabbè, ha telefonato, si è arrabbiato, cercava Belpiede. No. Io immaginavo che la RAI o il Consiglio di amministrazione denunciasse il giornale, sì, in qualche modo non l'ha tutelato per calunnia, eccetera, perché se c'è una cosa che non si fa a Rai, sì, 4 è la porno RAI. No, nessuno ha osato rispondere al giornale. Ah, ecco. La RAI non ha risposto, a quell'articolo. Sconvolto, anche perché questa serie va in onda in tutto il mondo. Sì, cioè, io sono rimasto sconvolto da questa mancanza di, come posso dire, di reazione ad una diffamazione, diciamo. Io sono rimasto stupito. Allora, ma che c'entrano i cardinali pedofili, amica dei cardinali pedofili? Che cosa voleva dire come metafora? Se era una metafora poi, perché non lo so, magari non era una metafora. Insomma, io credo che la cosa che è più importante che abbia fatto lei è il giubileo. E dunque? Certo. Ma poi comunque questa è la telefonata, lei continua a tirare fuori questa telefonata, vedi? Io ho accettato anche il 1° maggio di poter parlare, anche perché non... Lei dice, non riconosco questa telefonata, dunque non voglio parlare nemmeno dell'oggetto di questa telefonata. Chiaro, avremo 3 sedi per far discutere questa cosa, il Tribunale del Lavoro, perfetto. Tribunale Civile e quello penale. No, è oggettivo che il direttore generale della RAI sia amico della Chiesa e di un settore in particolare, questo è oggettivo. Qual è il settore? Che settore? Lei. Che settore? È molto vicino a Opus Dei, a tutta questa... E che c'entra la pedofilia, scusa? No, stai tranquillo, è oggettivo, lo dico io, è oggettivo che lei... Ma che stai, dicendo, Parenzo? Che piace al Vaticano, si può dire o no questo? Vabbè, che si c'entra? E allora, ma certo. Io dico, sto spiegandoti una cosa, è oggettivo che il direttore generale della RAI attuale è messo lì ed è molto vicino sì, e piace ad acquisto del Vaticano, si può dire? Sì, certo, sì, che si può dire, allora... Ci sono stati alcuni scandali che hanno coinvolto la Chiesa, con la risposta... Ma che vuol dire? Allora, con una butade, una persona può una butade in modo anche in un momento di rabbia e di rancore, e per un dirigente che non si è sentito tutelato dal proprio capo. Ma io non volevo avere una discussione adesso. No, su ma io sto dicendo un'esegesi forse sbagliata, ma del fatto oggettivo, cioè il direttore generale è molto vicino alla Chiesa. Quindi si può dire questo è un reato? No, si può dire. Comunque ha detto Freccero che c'è un processo in corso, ci sarà infatti forse un processo in corso e le cose verranno spiegate lì. Senta Freccero, però voglio capire una cosa, lei ci può dire una persona che le piacerebbe moltissimo portare in una RAI se lei dovesse mai diventare presidente? Qualcuno dice che le speranze, le percentuali sono zero. Ieri c'è stato ospite da noi Antonio Verro, consigliere di stazione RAI, ha detto persona competente, vero, no? Personalità zero, possibilità 0% che Freccero faccia il presidente della RAI e Santoro il direttore generale. Per lei le percentuali quali sono invece? Ma guarda, io mi sono... Non so quante percentuali, ho solamente posto un metodo, mi auguro, anzi, credo di avere, se dovessi veramente essere così in un'altra situazione, in un altro paese, credo sì, che si potrebbero essere delle possibilità. Ah, in un altro paese sarebbe favorito lei, diciamo. Questa è buona. Sì. Invece poi in Italia c'è la politica, un sacco di cose, eccetera. No, eccetera. Ma poi è vero, insomma, per il fatto c'è vero. Non posso io parlare del consigliere amministratore, non ha reagito nemmeno lui, cioè che cosa ha fatto in questi anni, vero? E che ne so io, Lasciamo, cioè è troppo facile per me, su, no? È infierire, come lei dice, su. Sì, no, mi dica il nome di una persona che porterebbe la RAI, una. Non è un problema. No, una persona che le piacerebbe, una persona che le piacerebbe. Beh, chiaramente riporterei in RAI per un motivo di coerenza. Luttazzi, la prima persona che è venuta in mente è significativa. La cosa può interessare. L'abbraccio forte, c'è la pubblicità che incombe. L'abbraccio fortissimo, a presto. Eccoci qui, 800 24 00 24, in diretta anche oggi, 1° maggio, in collegamento con Roma, David Parenzo. Eccoci qua, pronti Cruciani, a combattere. Crumiro. No, adesso ti faccio sentire una cosa, una piccola chicchetta da un film storico. Una piccola chicchetta. Un brufolo sul naso. E beh, ma chi se ne frega, scusa, adesso oggettivamente noi siamo, no, che facciamo schifo tremendo. Allora, il sondaggio è questo, cari ascoltatori, che anche oggi siete qui pronti con la zanzara. Parenzo, deve o no schiacciarsi il brufolo sul naso? Brufolo da stress, te lo devi dire anche. Brufolo da stress. Esatto. Lavoratori. Titoli del TG3, Bianca Berlinguer, Inside, dentro TG.com 24, Mediaset. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. I sindacati, no al governo tecnico che nomina altri tecnici, meno tagli e tasse, più crescita, a Torino i centri sociali contro Fassino. Napolitano chiede misure per l'occupazione giovanile, basta contrapposizioni tra le forze politiche. Fornero non è un bel 1° maggio, manca il lavoro. Bossi, mi ricandido a segretario, la Lega invita i suoi sindaci a mobilitarsi contro l'IMU, Moroni, Monti a casa entro l'estate, giornalisti spintonati. Monti, errore, abolire l'ICI, sdegno per chi incita all'evasione fiscale, nomina commissari per i tagli alla spesa pubblica e per gli aiuti alle imprese. Cicchitto, Monti provocatorio, se continua così rischia, per incapacità dei ministri chiama i commissari, Bersani aiutare le piccole imprese in crisi. Francia, 5 giorni dalle urne, Marine Le Pen invita a votare a scheda bianca, destra in piazza per il 1° maggio e Sarkozy fa il pieno di gente a Parigi. Speranza, passione e futuro, lo slogan del tradizionale concerto del 1° maggio a Roma, dai gruppi musicali l'omaggio a De André e Lucio Dalla. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Lavoratori! Fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. Guarda avanti. Servi di Roma fuori, oltre i monti, non permettere altri amore. Roma di accecare. Cattivona. No, ma non sei cattivona, sei cattivissimo. A chi ti vuol fermare? Padania. Sali Padania. Pronto? Love of my life. Allora. E Nabucco salirà con il cielo. A proposito di Padania, siamo sempre alla zanzara, 800 24 00 24, anche oggi 1° maggio abbiamo cattivone. Abbiamo Bossi, il cattivone Bossi, il primo dei cattivoni che si candida segretario, questo l'abbiamo già sentito anche durante il giornale radio. E poi dice Padania trionferà, stato farabutto canaglia, ma sempre la stessa cosa però si dice. Non riusciamo a fermare la tua, perché nel nostro cuore, nel cuore della nostra, di voi, di noi, e quindi non potranno strapparlo fino a che sarà giunto il momento della libertà, fino a che nelle piazze dei nostri paesi la bandiera padana trionferà. Tutto il problema è lì, è un attacco dello Stato, del centralismo romano, farabutto, canaglia, sconfitto. Poi c'è Maroni che chiama l'IMU pizzo di Stato. Bisognerebbe ricordare, e dice anche che sarà la fine di Monti, per carità, si può discutere di tutto, però qualcuno ha la memoria corta, come molti anche nel PDL, sulla questione delle tasse che non hanno abbassato per tanto tempo e adesso gridano all'oppressione fiscale. Dunque ha ragione Monti che le premesse di quello che sta avvenendo adesso sono state messe dai governi precedenti. È vero anche che si poteva attuare un'altra strada, cioè quella della riduzione massiccia del debito pubblico e soprattutto della spesa pubblica. Vabbè, Maroni, IMU pizzo di Stato. Le premesse dell'IMU furono gettate dalla stessa Lega con il federalismo, però adesso dicono pizzo di Stato, vabbè. I nostri sindaci guerrieri li chiamiamo a fare una battaglia contro il vero pizzo di Stato, che è l'imposta sulla prima casa. Sarà la fine del governo Monti. Questo è l'obiettivo che abbiamo. A casa chi mette solo tasse sulla famiglia e sulla prima casa è la nemesi. Vuole tassare la casa? Bene, noi lo manderemo a casa. Guida il popolo nella tempesta. Beh, come sai, Parenzo hanno mandato via, non solo sospeso, il mitologico senatore Pier Giorgio Stiffoni. Chiamiamolo subito. Sì, con calma questa sera, dopo, più avanti. Perché il senatore Stiffoni sostanzialmente viene accusato di avere distratto dei soldi del partito, dei soldi destinati al gruppo senatoriale della Lega Nord, e per non si sa quale destinazione. Probabilmente per scopi personali, però questo qua deve essere naturalmente pare che abbia anche restituito una parte dei soldi a Bricolo, non so, tutta una cosa che chiariranno i giudici naturalmente. E però Stiffoni lo vogliamo ricordare per le sue performance anche qui alla Zanzara, prima che ci sbattesse il telefono in faccia e ci dicesse non voglio più parlare con voi, vi querelo. Anzi, recuperiamo anche quella, anche quel pezzo, va. Stiffoni, ti ricordi i tunisini con le Adidas? Quelli che arrivano hanno le Adidas, quelli che arrivano qui da coi barconi. Quei tunisini che vengono in Italia soltanto per come paesi di transito, per andare magari in Francia o in Germania o dai loro parenti, e che sbarcano magari con le scarpe Adidas o con le magliette grifate, questi, se mi permette, non sono delle gente richiedente asilo. I famosi tunisini con le scarpe griffate e le camicie bianche. Una volta anche, anzi no, oggi Zaia, presidente del... Un'altra cosa di Stiffoni prima, sì, sui gay e alla Lega, stupenda questa, te la ricordi? Certo. Nella Lega non ci sono gay. Ma anche a Treviso ci saranno omosessuali, non è? No, certamente, il 10% della popolazione. Ci sono anche in Parlamento e sono abbastanza visibili. E anche nella Lega. Chi c'è in Parlamento, scusa? No, nella Lega no, caro mio. Come no, nella Lega no? In percentuale, scusi. In percentuale ci sono, sicuro. No. Noi anche abbiamo un DNA diverso, è una cosa diversa, no? Il DNA diverso dalla Lega, questo era anche Pier Giorgio Stiffoni, banchiere da tanti anni, era, nel senso che ormai non è più nella Lega in questo, no, senso, mica. Stai a fare il coccodrillo. No, ma mica è morto, per carità, gli auguriamo una vita lunghissima. Grandi battaglie, io voglio grandi battaglie con Stiffoni, perché dire delle cose come quelle degli immigrati che sbarcano con le Adidas e tutti fermati. Allora ti faccio ascoltare però una persona molto moderata, che è il governatore del Veneto Zaia, che oggi però ha detto più o meno la stessa cosa. Aia. Prima vengono i veneti, poi quelli con le scarpe da ginnastica pulite dalla Tunisia. Senti. E porta i saluti del Veneto, dove ancora si dice prima il Veneto, ovvero che prima diamo lavoro ai nostri veneti e poi a quelli del resto del mondo, senza farsi impietosire da quelli che magari la scorsa estate arrivavano con le scarpine da ginnastica pulite, jeans e occhialoni da sole dalla Tunisia e venivano qui a dirci che erano assolutamente dei rifugiati politici che scappavano dalla morte sicura. No, quelli molto probabilmente scappavano dalle loro galere. E ha fatto bene Roberto Maroni a rispedirli a casa. Che ci ha reso schiavi. Beh, Zaia, scarpe da ginnastica pulite e occhialoni da sole dalla Tunisia. A parte che se scappavano dalla galera, non è che necessariamente uno che scappa dalla galera tunisina ha gli occhialoni da sole e le scarpe da ginnastica pulite. Comunque, vabbè, cioè, se gli piace così a Zaia. Poi che ci fossero molti che ci marciavano e volevano entrare in Italia, non erano per niente, come dire, disperati, questo probabilmente. Va bene, 800 24 00 24. Andrea, provincia di Reggio Emilia, buonasera. Pronto? Dica. Ciao, buongiorno a tutti, buonasera. Ma io volevo fare tre considerazioni velocissime. La prima, tre icone. Il servizio di Valerio Staffelli l'altra sera, dove ci sono i dipendenti dell'USL, Vito Gianluca, che non timbrano il cartellino, che i colleghi lo timbrano per gli altri. Ma con chi sta parlando? Con suo figlio? Con figlio? Sì. No, no, sto parlando con voi. No, prima ha detto stai zitto. Io ho detto zitto a mio figlio. L'altra considerazione è la bellissima trasmissione che Radio 24 ha fatto l'altro giorno sugli imprenditori che si suicidano. E questo è un po' da contrapposizione, perché c'è chi ha il lavoro sicuro e garantito e si permette di fare quella schifezza che ha fatto. Sì. E trovo che sia una cosa ingiustissima. Un paese che non licenzia o non può licenziare quelle persone è un paese destinato a finire malissimo di sicuro. Poi? Non c'è alternativa. L'altra considerazione che volevo fare è, Parenzo l'altro giorno ha detto una cosa che mi ha infastidito veramente tanto. Me lo fa spesso. Bene, dice tante, però quella che ha detto, che la regione Lombardia ci sono tante cause, tante cose con la magistratura. Parenzo, ma in Calabria secondo te non c'è un cazzo da andare a vedere o nessuno ha il coraggio di farlo? Ecco il genio, è arrivato il genio, è arrivato il genio da Reggio Emilia che dice in Calabria non si indaga. Cosa vuol dire? A parte che ci sono un sacco di inchieste in Calabria. A parte che è una follia, poverino, a parte che è una follia, sì. Ho detto che è clamoroso che in Regione Lombardia, la regione più importante d'Italia col più alto PIL, ci siano 11 consiglieri regionali sottoposti a indagine, se vi piace così. Mi piace così. Ma Parenzo, fa schifo anche a me, il problema è un altro, il problema è che in questo paese qua ormai si sta arrivando a un punto dove non si può più fare niente, perché se non riesco a licenziare dei dipendenti che non timbrano il cartellino e se ne stanno a casa per i fatti loro, non posso licenziare quelli che è proprio il basso del paese. Pensiamo all'alto cosa possono fare. È diventato uno schifo questo paese, non si può più fare niente. Andrea, però la correlazione tra le due cose francamente non è che la capisco molto. Beh, la correlazione è semplice, è fatta. Sì, il male dell'Italia non è la Lombardia, questo ho capito. Questo, no, no, da quello... non è la questione di Lombardia o non Lombardia, è la questione che se non riesco a licenziare quelli che fanno quello schifo... Va bene, ho capito, questo è molto chiaro. Non capisco gli imprenditori che si ammazzano. Sì, ma non capisco la relazione con la questione della Lombardia. No, quella lì era una cosa che ho detto bene. Perché era un po' che Francesco da Caserta, grazie. Grazie, non dica parolacce davanti a suo figlio, almeno lo possiamo dire solo noi. Francesco Pronto? Da Caserta, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Pronto? E vabbè. Ma chi chiama da Caserta l'1 di maggio? Francesco, dica. Pronto? Mi sente? La sento, dica. Allora, no, volevo intervenire sulla questione della dirigenti della RAI come Santoro oppure l'altro, allora... non ricordo. Io non sono d'accordo perché lavoro in un gruppo editoriale, è una cosa essere giornalisti, è una cosa essere tecnici dei numeri. Ma non è che il presidente e il direttore generale sono solo tecnici dei numeri, se è per questo. Uno può avere tante critiche, ma non è che uno per forza deve essere tecnico dei numeri. Quelli sono i ragionieri che fanno tu dalla mattina alla sera. Sì, però le posso dire che amministrare i soldi pubblici è un problema importante. Ho capito, ma anche chi è direttore di una rete ha a che fare col budget, non necessariamente è digiuno di queste cose. Le posso dire che però magari i direttori di rete sono meno attenti a politiche di sinergiche oppure di risparmio. E con le politiche sinergiche e di risparmio diamo la linea alla pubblicità. Giuliano Amato, 800 24 00 24, qui alla Zanzara in diretta anche su TGCO 24. Tra pochissimo Davide Parenzo in collegamento da Roma. Parenzo? Certo, che bello, quando mi chiami due volte, che bello. Potrei fare come... tu hai letto la Bibbia, no? L'Antico Testamento. Sì. Stai zitto, Amato. Caino e Abele, sai quando gli disse Caino, due volte lo chiama. Ma speriamo che non finisca così, però. Scusa. E lui, eccomi, sfrontato, no? Cioè si rivolge a Dio dicendo, eccomi. Ma, speriamo speriamo che non finisca così, abbi pazienza. No, ma ti ho paragonato a ho capito, però poi, a te. Però poi... eccomi, capito, eccomi. Amato, rimpiango di non aver fatto il tennista nella vita. Il tennista? Tennista, sì. Già, si gioca molto bene a tennis. 16 marzo dell'anno scorso, è ricicciato ancora, dovrà sempre con parsimonia, perché poi le prime dichiarazioni ad Aldo Cazzullo di oggi sul Corriere della Sera sono abbastanza incredibili. prime dichiarazioni di Giuliano Amato, l'uomo che dovrebbe ritoccare, no, trasformare, no, riformare, sì, la legge sul finanziamento pubblico ai partiti, anche i soldi dati ai sindacati. Non pensatemi con i forbicioni in mano. Ma allora che fa? Problema da affrontare con molta cautela. Ma perché la cautela, il tempo, soldi che spendiamo? Giulianone amato nostro, amato da chi poi? Amato da chi? Tennis, il tennis di Giuliano Amato. Avessi fatto scelte di vita diversa, sarei stato secondo me un buon tennista, non un Federer di sicuro, ma molto meglio di quello che sono, e questo è un rimpianto della mia vita. Eh beh, il rimpianto di Giuliano Amato, che di nuovo torna sulla breccia e dovrà sforbiciare i soldi ai partiti. Diciamo che quando era nel Partito Socialista di sforbiciare non... Ma in realtà poi all'epoca credo che il finanziamento pubblico dei partiti fosse molto diverso da... Comunque lui è il dottor Sottile, Dottor Sottile, sì. Speriamo che i tagli non siano sottili. No, infatti. Battutona? No, ma a me dispiace, perché questo governo poi sta inviando veramente ai matti. Il fatto che devono chiamare altri esperti, espertissimi, va bene, Amato, espertissimo. Sentiamo la frustata di Monti ad Alfano sulla questione dell'evasione fiscale, eccetera, eccetera. Sdegno per certe affermazioni, riferimento diretto al PDL e ad Alfano. Io vorrei iniziare con una parola di sdegno. Chi ha governato, chi governa, chi intende proporsi per il governo del proprio paese non può giustificare l'evasione fiscale, né tantomeno istigare a non pagare le tasse o a istituire personali e arbitrarie compensazioni tra crediti e debiti verso lo Stato. Altri sono i modi in cui in un paese serio si risolvono problemi seri come quelli che l'Italia ha in questo momento, avendoli ereditati da decenni di politiche spesso non serie. E sui decenni di politiche non serie devo dire che Monti ha pienamente ragione. Poi sui rimedi per uscire dalle politiche non serie, diciamo la verità, si può discutere. Secondo me l'indirizzo preso dal governo è assolutamente errato in quanto a tasse, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo a sentire Mauro da Bologna, poi Silvio da Monza, Riccardo da Cremona, Massimo da Pisa. Mauro da Bologna. Luciani e Parenzo, eccoci. Non ci sta la pernacchia, perché vi faccio invece i miei complimenti, siete fantastici. Io ho telefonato per un altro motivo. Ho parafrasato il film, perché l'avete messo voi in onda il 1 maggio, siete lavoratori, state lavorando, ho pensato che un versetto vi andava fatto, ma siete troppo bravi. Aspetti un attimo, aspetti. Lavoratori! Allora? L'avete fatto voi per me, va bene. Allora, in questo caso ce lo facciamo da soli, diciamo. Esatto, vai. Però non potete dirle che l'ho fatto io, perché io vi stimo troppo. Dunque, io vi ho telefonato perché l'altra sera ero a Nogare nel Veronese per uno show di Benettazzo Eugenio, che è un economista amico di Parenzo, almeno di nome. Due libri fondamentali che Giannazzi dovrebbe leggere. Due libri fondamentali abbiamo scritto. Vabbè, allora... Molto bene, e ero a vedere questo show e ho conosciuto Mirko Moreschi, che organizzava il grillino che doveva andare dalla Gruber. Dunque? Ecco, mi sono fatto un'idea molto precisa del perché questi ragazzi, in gambissima peraltro, io non sono un grillino, ma devo dire giù il cappello. Sì. Perché questi stanno spopolando, a parte Grillo, che è bravissimo come comico, perché lui dice cose tragiche facendo ridere la gente, quindi acchiappa moltissimo, ma lui ha educato anche questo esercito di grillini in un modo che assolutamente sono imprendibili. Questi, cioè, che vuol dire imprendibili? Scusa, che sono Forrest Gump, non ho capito. No, colpiscono e scappano. Per esempio, non sono andati dalla Gruber, hanno lasciato la sedia vuota, non si fanno intantonare nelle televisioni e nelle radio, tant'è che anche voi non li avete ancora avuti. Ma questo lo facevano? No, noi non li abbiamo avuti perché non li abbiamo chiamati, probabilmente verrebbero, non lo so. Adesso, dopo questo diktat di Grillo, non credo, però... Ma da me sono venuti dopo il ma diktat. Ma insomma... No, però, attenzione ragazzi... Guardi che si nascondevano i Khmer Rossi, in democrazia non ci si nasconde, i Khmer Rossi si nascondevano nella foresta. Però lasciatemi dire una cosa importantissimo, perché qui tutti li attaccano dicendo non si vogliono confrontare, eccetera. No, questi hanno capito una cosa molto molto importante. Sì. Loro mancano, la sedia vuota colpisce molto di più di una sedia piena in polemica. Secondo, loro attendono che i voti affluiscano perché la gente ascolti nei talk show e nelle radio e dove li intervistate che questi politici parlino, perché più parlano e più fanno pena, dicono delle stronzate galattiche dappertutto. No, no, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, hanno delle facce non esportabili, nessuno ha più la faccia di stare davanti alla gente. Sì, però questa cosa qui che si dice da tanto tempo dovrà essere verificata poi in sede elettorale, perché tutti noi diciamo non si possono più sentire, certo. Questi politici non si possono più guardare, può darsi che sia vero, c'è una certa ripetitività, adesso quelli che protestano contro le tasse di Monti hanno portato il paese ad una pressione fiscale altissima, non hanno fatto nulla prima, eccetera eccetera, però poi tutto questo disagio, tutta questa scontentezza andrà verificata quando si va a votare, perché se ne parla sempre, poi però quando si va a votare i partiti tradizionali o comunque quelli che fanno schifo a parole diventano invece meravigliosi nelle urne o comunque preferibili nelle urne. Grazie Mauro. Stavolta sono anche convinto anch'io che non toglierà il potere e me lo auguro. Ma non questione di potere. Voglio dirvi una cosa, questi grillini sono conformati in modo che se ne vanno 10 dentro al Parlamento, non di più, 10, questi scaravoltano il Parlamento. Guardate, sono in gambissima, sono molto freschi e sono anche molto motivati. Ragionano sul territorio e acchiappano voti direttamente, come si faceva una volta. Attenzione a questi grillini. Va bene, grazie, andiamo a Monza. Salve, Silvio. Cruciani. Grazie. Silvio da Monza, intanto mi segnala, non leggerlo, splendido blog, che Giuliano Amato il 2 giugno del 2008 disse: sono in politica da 50 anni, mi ritiro. Ma in realtà quella frase là fu pronunciata mi ritiro dalla politica attiva, cioè dalla politica attiva nel senso dalla presenza in Parlamento, credo che disse questa frase. Sono in politica da 50 anni, mi ritiro. Adesso diventa consulente del governo Monti, però uno può dire un incarico più tecnico che altro, anche se identificare Amato come un tecnico mi pare piuttosto difficile. Allora, dove andiamo? A Silvio. Sì, allora io mi riferisco alla telefonata prima con Freccero e al discorso di Parenzo che ha tenuto a precisare il fatto che ci sia un collegamento fra i preti e i pedofili. No. E da come l'ha detto lei sembrava così. Ci sono stati alcuni casi ben documentati anche dal signor Ratzinger, tant'è che vabbè, allora qual è il punto? Silvio, qual è il punto? Il punto è che prima di tutto non si può fare un'assimilazione tra il fatto di essere preti e il fatto di essere vabbè, ma nessuno l'ha fatto, su Silvio, tagliamo corto, non mi pare il problema del secolo. Secondo, Freccero ha sicuramente con questa frase tradito una sua impostazione culturale che è sicuramente anticlericale, su questo non c'è dubbio. Sicuramente anticlericale. E vabbè, non è che ha fatto la scoperta del secolo lei con questa cosa. Mentre Parenzo, come si chiama, l'ha tirata fuori come se fosse una trovata dell'uovo di Colombo, cioè mentre Freccero, giustamente essendo più furbo, ha cercato di glissare le domande che le faceva perché non voleva esplicitare la cosa. Vabbè, l'esegesi di Silvio da Monza della risposta di Freccero, 800 24 00 24, e proprio nel giorno in cui Bossi si ricandida a segretario abbiamo con noi una conoscenza, una vecchia conoscenza della Zanzara, è da tempo che non viene da noi ai microfoni, il senatore Roberto Castelli della Lega Nord. Buonasera. Come sta? Qui devo fare i complimenti. Va bene, grazie. Perché devi fare i complimenti? Devo fare i complimenti. Vabbè, tu parti sempre con i complimenti, no, come al solito. No, a Castelli, a Cruciani, a tutto il gruppo. Ma non dire stupidaggini. 50 persone che lavorano alla Zanzara. No, veramente sono 100 le persone, non 50. Scusa, no, perché avere Castelli, avere il senatore Castelli, l'ingegner Castelli, amico di Scalfari, nel giorno in cui... Dai, questo amico di Scalfari. Amicissimo di Scalfari. Nel giorno in cui Bossi decide di ritornare, è davvero un colpo da mezzo. Ti assicuro che è stato piuttosto casuale comunque. Vabbè, cominciamo. Senatore Castelli, allora mi dica una cosa, ma lei era oggi, dov'era, in provincia di Bergamo oppure a casa sua? No, purtroppo non ho potuto partecipare perché avevo già programmato degli impegni personali inderogabili da lungo tempo prima che... Cioè cosa? Devo andare in barca a vela, no? Questa vicenda per cui ho dovuto a malincuore rinunciare. Barca a vela, no? Può andare in barca a vela questo tempo, no, erano impegni familiari. Impegni familiari, no, pensavo barca a vela, che ne so, ma si può andare... Quindi la famiglia viene prima della Lega? Beh, vi sono alcune volte in cui vi sono alcuni impegni che presi da tempo che non possono poi essere derogati. No, certo, è giusto. A me va benissimo che il privato, solo nei paesi comunisti il privato era il pubblico. Lei mi dice la Lega viene dopo la famiglia. Ogni tanto, non sempre. Allora, vogliamo porre delle regole, per favore, sì. Per questo nostro sì. Divertente, interessante colloquio. E quali sono le regole? Allora, rinunciamo a fare l'esegesi del pensiero di ciascuno di noi tre e atteniamoci a quello che viene dichiarato da ciascuno. Vabbè, adesso non si impunti subito così. Poi scusi, volevo correggere Parenzo. Qua, non è difficile. Diceva una volta il privato è politico. Esatto. Questo sì, è vero, chiedo scusa, questa ragione. Chi lo disse? Pannella. Lo dicevano, no? Ma Parenzo è troppo giovane, 68 non l'ha fatto, l'ho solo letto sui libri, se li ha letti. È vero, sì. È vero, il privato è politico, ha ragione. Li ha letti secondo lei i libri, Parenzo? Non lo so. Ma non lo so. Non lo so, ogni tanto... Anche lui è qualcosa. Un uomo moderno, figlio della televisione, più che della cattiva. Lo sento un po' giù però, oggi Castelli, un po' giù, non so perché. No, la notizia... Parenzo mi ha messo i cattivi umori, per interpretare il mio pensiero. No. Bossi che si ricandida segretario, ma insomma, adesso Castelli va benissimo perché dà... ha anche la sua età, non bisognerebbe un po', no, largo ai giovani, c'era questa cosa, Maroni ormai, perché si ricandida Bossi? Ma guarda, intanto sulla questione dei giovani, noi siamo comandati a bacchetta da un signore di 87 anni che regge il timone dell'Italia con piglio autorevole, ancorché alcune volte autoritario. Quindi penso che tutti coloro i quali sono più giovani di 87 anni possono tranquillamente aspirare a posizioni di comando. Lei dice, siccome c'è Napolitano detto Presidente questo, della Repubblica, perché Bossi non si può ricandidare a fare il segretario della detto Lega? Detto questo, io per quanto da vecchio leghista, credo anche interpretare il pensiero di moltissimi leghisti, ho in mente due cose fondamentali in questo momento per il movimento. Sì. La prima è l'unità del movimento. E vabbè, questo... è stato detto anche oggi. È stato assolutamente sottolineato. Sì. E la seconda, la riconoscenza verso Bossi, che in politica, la sa qual è la definizione di riconoscenza in politica? Non dovrebbe esistere, secondo me, in politica la riconoscenza. La dico. Qual è? La speranza di nuovi favori. Io invece non la penso così. Penso che, siccome Bossi ha fondato la Lega... noi dobbiamo essere riconoscenti per tutta la vita, dobbiamo quindi tenere in massimo conto la sua volontà. D'altro canto, cioè, se lei mette assieme queste due cose, essendo oggi tutti i principali dirigenti del partito uniti a Zanica, penso che sia stata una cosa evidentemente concordata. Sarà una corsa Scusi Castelli, lei dice che una volta che Bossi ha annunciato questa cosa, siccome bisogna essere riconoscenti a Bossi per tutta la vita, per quello che ha fatto, siccome ci vuole unità, non ci può essere un'altra candidatura. No, io immagino che se Bossi ha detto questo sarà stata una cosa concordata con tutti, non penso che sia stata una cosa così tirata fuori. E dunque Maroni a questo punto non si deve candidare? Ripeto, se si ragiona in termini di unità bisogna arrivare al congresso con una candidatura unica. E dunque Bossi per Castelli è l'unico candidato? Se Bossi si candiderà, tutti hanno detto che appoggeranno Bossi, a cominciare da Maroni, quindi... capisce che per un liberale come lei... Scusi, però, perché... È perché una roba da partito comunista. Potrebbe questa. Anche esserci un bel duello, perché lei esclude un duello Bossi-Maroni. Sarebbe straordinario, una grande cosa democratica. Dibattiti, cose, scontri. O no, o la democrazia... Capisco che per voi sarebbe straordinario. Secondo me, in questo momento particolare, credo che sia meglio... andare al congresso con una candidatura unica, qualunque essa sia, ma è Brezhnev, concordata da tutti, una cosa brezhneviana, è brezhneviana. O no? No, io esprimo il mio parere in piena libertà di coscienza, ma certo, poi che quello che io si debba fare, sì, però in tutti i partiti, diciamo nel PDL un po' meno finora, però insomma in tutti i partiti in Europa c'è una la si contende la leadership. Lei dice la Lega è un partito diverso. Io vi invito a fare questa considerazione. Pensiamo al tempo in cui nei partiti c'erano dei leader carismatici. Pensiamo al PC ai tempi di Berlinguer, addirittura di Togliatti. Pensiamo a che? Giusto a Forza Italia ai tempi di Berlusconi. Pensiamo al Partito Socialista ai tempi di Nenni. Beh, no, Partito Socialista si candidava contro di loro. Beh, no, contro. No, i congressi c'erano, anzi. Cioè, lei sta dicendo. Adesso, infatti, noi lo facciamo, però. Ma si scontravano idee diverse. Un leader carismatico, evidentemente, il partito ne tiene conto. Cioè, noi siamo come il PC di Berlinguer. In questo caso, il leader carismatico, addirittura il fondatore, quindi credo che. Sia importante quello che pensa. Comunque noi siamo ma nel PC di Berlinguer c'era Cossutta. No, ma nel PC di Berlinguer si arrivava con Berlinguer segretario, punto e basta. Certo, diciamo, ma lì almeno le correnti si vedevano, si sapevano quali erano i miglioristi di Napolitano. Qui no, ma che sono venute fuori adesso i barbari, ora? Vabbè, comunque. Perché scusi, le correnti devono esserci per forza le correnti, questo non vorrei capire. Ma un dibattito interno. Il partito si aggrega, si riaggrega, si conforma come meglio crede. Se vi piace così o no? No, perché? No, per carità, ma dunque a lei piace un partito un po' come il vecchio PC, a lei piace molto questo tipo di impostazione. Io cito le parole di Maroni che concordo, sulle quali concordo perfettamente, quando disse che la Lega era l'ultimo partito di stampo sovietico, quindi questa cosa resta anche adesso. Anzi, stampo leninista per dire esattamente. Non però anche sovietico non ci sta male, diciamo, nella cosa. Leninista è più o meno la stessa cosa. Esattamente quello che dice Maroni, su cui io concordo. Questa, secondo me, è sempre stata la forza della Lega. Non essere, diciamo, diviso da correnti, andare avanti liberamente, democraticamente. Diciamo, però scusi, nell'ultima settimana abbiamo assistito, senatore Maroni e senatore Castelli, ad una sostanzialmente leadership di Maroni in pectore, cioè è Maroni che più o meno guidava le danze in queste settimane, adesso c'è Bossi che si ricandida a segretario, insomma, cioè è un po' bizzarro. No, assolutamente no, perché le vicende della Lega sono note. Appunto. Bossi ha fatto un passo indietro per esigenze di natura politica. E adesso si ricandida? Ha fatto un passo indietro in questo momento. È stato nominato un triumvirato, di cui Maroni è evidentemente un autorevolissimo componente. Quello più forte. E quindi è sicuramente la figura di maggior spicco dal punto di vista politico che in questo momento c'è, e quindi giustamente ha una forte voce in capitolo per quanto riguarda la politica della Lega, tant'è vero che si è reso protagonista anche oggi di questa questione sull'IMU. Il congresso è un'altra storia, il congresso è un, come tutti i congressi, un'assemblea democratica che vedrà le elezioni dei nuovi organi dirigenti del partito. Questo lo sappiamo. Non ci vedo nessuna contraddizione. È più bravo lei o Belsito a fare le immersioni? A fare? Le immersioni. Quando l'avete fatto? Guardi, tutti sono più bravi di me a fare immersioni. Io sono un disastro. Quante immersioni ha fatto insieme al signor Belsito? Perché mi ricordo qualche foto. Due immersioni insieme a Belsito. Sì, le abbiamo fatte in occasione di una cerimonia che ha organizzato la Lega, dove abbiamo ogni settembre abbiamo portato una corona al Cristo degli Abissi di vicino a Portofino. Adesso torniamo su Belsito, però lei immaginava qualcosa di quello che sospettano i magistrati su quello che sospettano, ho detto, perché siamo ancora indagini in corso. Insomma, Stiffoni, suo collega al Senato, era in quel comitato per il controllo delle finanze del partito. Lei sospettava qualcosa di Stiffoni? Pensa che... No, qui c'è da precisare una cosa che è molto importante. Intanto io non solo non sospettavo nulla, ma so anche poco, perché in realtà l'unica cosa certa in cui in questo momento si sa è che Stiffoni si è autosospeso sia dal gruppo sia... È stato espulso in pratica. Dal partito. È stato praticamente espulso, da quello che si sa. No, dopo magari precisiamo anche questa cosa. Come no? Dicevo, questa è l'unica cosa certa. Sì. Del perché ho letto qualche illazione, peraltro vaga, sui giornali. Però c'è da dire che riguarda l'amministrazione dei fondi del Senato. Certo, una cosa completamente diversa, dai fondi separata da quelli del finanziamento dall'amministrazione pubblico. Dei fondi del partito. No, ma questo qua è assolutamente... Quindi io non mi occupavo minimamente dei fondi del Senato, per cui non sapevo nulla, conosco Stiffoni da tanti anni, non sospettavo nulla, ancora oggi mi sorprende enormemente questa vicenda. Cioè, lei ha sempre pensato nel caso vi siano questioni Per quanto riguarda poi... No, scusi un attimo, su Stiffoni, adesso arriviamo all'espulsione, un attimo, Castelli, adesso arriviamo all'espulsione. Stiffoni sembra, secondo quello che sospetta i magistrati, pare che abbia restituito anche una parte dei soldi, o comunque è promesso la restituzione a Bricolo, adesso, insomma sono cose un po' vaghe. Però sembra che abbia utilizzato i soldi del Senato, che erano destinati ai senatori, lei è senatore, per cose personali. Lei ci può dire qualcosa a riguardo? No, non ne so nulla, ne so quanto lei, perché, ripeto, ci sono informazioni del tutto vaghe. Sì. E era una questione di cui io non mi occupavo minimamente, perché lui era lui l'amministratore. Quindi ha sempre pensato... Che nulla aveva a che fare con l'amministrazione del partito. Ma ha sempre pensato a Stiffoni come una persona onesta, lei come una persona irreprensibile? Ma io lo conosco da tanti anni, francamente non... È stato un fulmine a ciel sereno. Avrebbe messo la mano sul fuoco per Stiffoni, sull'onestà di Stiffoni? Beh, direi di sì, perché non, lui, guarda, io era già amministratore quando io ero presidente di gruppo. Sì, sì. E io non ho mai avuto il minimo dubbio. Guardavo anche i conti, non ho mai visto. Ma chi riguardava sti conti del gruppo? Solo lui, praticamente, aveva la fiducia degli altri per i conti del gruppo? No, c'è un comitato di presidenza, però ovviamente l'amministratore di fa lui i conti. Come quello che è successo nel partito, in realtà, insomma, praticamente. Come, sì, esatto, è la stessa cosa. Beh, no, un momento. Le questioni di Stiffoni sono tutte da verificare, ma no, vabbè, dico il modello. La cosa, il fatto che ci fosse un singolo amministratore che amministra. Il modello, certo. Senta, invece l'espulsione, non ho capito, praticamente è stato espulso da quello che si sa. No, allora è stato applicato lo statuto della Lega, che prevede che nel caso in cui vi sia un'autosospensione, il soggetto che si autosospende decade da socio militante, il socio che ha diritto di voto. Quindi, beh, scusi, Maroni oggi ha detto è stato un atto attivo, è stata una presa d'atto del Consiglio federale che ha preso atto che attraverso questa autosospensione si è sullo statuto. Vabbè, però non è che le cose sono automatiche, le cose sono decise da qualcuno. Oggi Maroni ha detto... In questo caso è automatico, perché si è applicata automaticamente una previsione dello statuto della Lega. D'accordo, però è evidente che se uno si autosospende è perché si confronta con qualcuno e dice mi autosospendo perché è meglio per il partito. D'altra parte Maroni oggi ha detto Stiffoni è fuori, cioè Stiffoni non è più nella Stiffoni Lega Nord. Stiffoni è fuori, questo è ovvio, ma attraverso un atto automatico che discende da una sua decisione. Sì, sì. Non è stata una decisione del partito che l'ha messo fuori. Certo, sarebbe grave se venisse accertato che lui ha preso, non so, 400-500 mila euro, 1 milione di euro per uso personale dal gruppo? Ma anche con la promessa di restituirlo, eccetera, o comunque... Scusi, lei mi fa una domanda che è una risposta assolutamente... No, magari poi li ha restituiti, non so, li ha utilizzati... Cioè... I fondi che si amministrano sarebbe come se qualcuno in banca si autopresta dei fondi. È chiaro che sarebbe una cosa grave. Allora abbiamo la pubblicità, poi torniamo subito per ultime domande con Roberto Castelli, 800 24 00 24. Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, collegamento da Roma, in collegamento da casa sua, forse a Lecco, se non mi sbaglio, il senatore Castelli, Roberto Castelli, Lega Nord, nel giorno in cui Bossi dice che si ricandida a segretario. Tu devi sapere, forse non sei ben informato, che Castelli a un certo punto si è messo alle calcagna di Belzito, in senso naturalmente un po' figurato, però insomma è uno di quelli che ha cercato di recuperare anche i soldi, per esempio investiti in Tanzania. Una volta da noi disse che non c'erano soldi in Tanzania. Io l'ho mandata più volte questo audio di Castelli, lui forse lo sa, gliel'hanno riferito. Dice un euro in Tanzania. Beh, come andare, ma non ci sono mai andati. Scusi, ma lei non confermo è stato quello esattamente quello che le ho detto l'altra volta. Ma scusi, lei non è stato quello che ha cercato di riportare questi soldi, esatto, in Italia. Quindi io conosco perfettamente la questione e le ribadisco che in Tanzania non è mai arrivato nulla. Sarebbero dovuti arrivare, ma non sono arrivati. Dunque non erano investiti, diciamo, fisicamente, diciamo, dal punto di vista. Avrebbero dovuto arrivarci, si sono fermati a Cipro. Questo non cambia assolutamente nulla della questione. No, solo per la verità dei fatti, perché ormai è diventata questa leggenda della Tanzania. Non arrivò mai nulla. Non è mai arrivati fino a Cipro. E poi sono tornati indietro. No, sono arrivati fermati a Cipro. Sì. Ma questo, ripeto, non cambia nulla nella gravità della situazione, né dalla volontà di fare determinate cose. Lo dico solo per una questione di per punto puntualizzare una verità che gli ho detto quella volta là in anticipo. Sì, assolutamente. Notizia che nessuno si fidò. Infatti mi stupì molto questa cosa qua, perché lei disse una cosa: i soldi non sono mai arrivati in Tanzania, noi l'abbiamo anche rilanciata, ma siccome poi nel tritacarne mediatico c'era, esatto, da dire... Esatto, la ribadisco, è così, però siccome i media di cui voi fate autorevolmente parte... di cui contribuite a diffondere spesso notizie sbagliate. Beh, insomma, no, ogni tanto sì, ogni tanto capita, no. Avete continuato anche voi a parlare di Tanzania, ripeto, non cambia assolutamente nulla, perché non cambia nulla. Però i soldi in Tanzania... La sostanziale, ma per la verità dei fatti in Tanzania è arrivato niente, cosa volevo dirvi? Senta una cosa, ma lei, bel sito, come se dovesse dare una definizione, no? Forse l'ha conosciuto, credo che sia uno di quelli che nella Lega l'ha conosciuto di più, al di là forse del cerchio, del cosiddetto cerchio magico. No, per niente, anche lei non l'ha mai conosciuto? No, io l'ho conosciuto, ma c'è gente che lo conosce molto, ma molto, ma molto meglio di me. Che definizione darebbe di bel sito? Che definizione darebbe di bel sito? Che definizione? Sì. Non posso darla. Perché? Perché se no mi querela. No, come se no mi querela. Diciamo che non ho una buona opinione di bel sito. Pericoloso, personaggio pericoloso. Pericoloso? Si può dire pericoloso? Questo non può querelare. Non dire di più, perché poi... Un delinquente, forse la querela, sì. Un delinquente non si può dire. No, non... Cosa avevamo detto all'inizio di questo dialogo? Di non attribuire, parole che lei... Parole che ma mica le voglio attribuire nulla, infatti. Cosa ho detto? Ha detto che non vuole dare nessuna definizione, perché sennò mi querela. No, ho detto che è una persona che non mi piace, punto. Però sembra venuto dal nulla, come se nessuno l'abbia scelto. A un certo punto se ne sono distaccati tutti, come se nessuno lo conoscesse, come se, no, se fosse una sorta di paria che... Anche questo è strano, eh? In fin dei conti anche... Ma non è strano, perché capita spesso. Sicuramente se lui ha raggiunto determinate posizioni è perché evidentemente qualcuno ce l'ha mandato. Ma scusi, ma per quanti anni ha fatto il tesoriere? E chi ce l'ha mandato? Se ha raggiunto quelle posizioni, chi ce l'ha mandato? Il segretario? Cioè il capo o no? Lui è stato... Allora, io posso dare solo la risposta ufficiale. Nel 2010 è stato nominato dal Consiglio federale tesoriere. Consiglio federale in cui c'erano tutti. Il resto illazioni, vabbè, di cui non si può. Per esempio Rosy Mauro, no? Io ho fatto una piccolissima campagna, probabilmente lei non è d'accordo, che è bizzarro, dicendo che è stata fatta nei confronti di Rosy Mauro una porcheria, un po', perché in fin dei conti non è indagata. Insomma, sembra non essersi appropriata di soldi, sembra da quello che è, di essersi appropriata dei soldi della Lega. Perché è stata espulsa? Solo ed esclusivamente per motivi politici, diciamo la verità, Castelli. Ma io la ringrazio per questa domanda, mi consente di chiarire, poi, come dicevo prima, le leggi mediatiche sono tali per cui alcune verità passano e altre no. Io vorrei fare un quadro più ampio. Renzo Bossi si è dimesso da consigliere regionale, è indagato? No. Vabbè, adesso lei mi dirà. Suo padre, Umberto Bossi, si è dimesso a segretario federale. Sì, ma non è che ci si dimette. Indagato di qualcosa. No, però non è che ci si dimette solo perché uno è indagato. Indagato di qualcosa. No, ma lei è un garantista. No, ma l'ha fatto per il vostro benissimo partito. Allora, il partito ha chiesto, per questioni meramente politiche, ribadisco, meramente politiche, che non rispetto al partito, le dimissioni da vicepresidente del Senato, a Rosy Mauro di fare un passo indietro dalla vicepresidenza del Senato. Sì, lei non l'ha fatto. Lei non l'ha fatto, e quindi scatta una legge inderogabile della Lega che se un militante o un dirigente a cui viene chiesto di fare una determinata azione per questioni meramente politiche, questo si rifiuta di farle, evidentemente... Però scusi, perché è stata scaricata? Perché è stata scaricata Rosy Mauro, che era un personaggio importante, vicepresidente del Senato, molto amico? Per questioni politiche, perché noi abbiamo stabilito, e ha dato l'esempio il segretario federale, che bisogna dare dei segnali forti all'opinione pubblica ai nostri militanti, perché noi non siamo come gli altri, malgrado ci si venga addosso di tutto in questo momento. Perché io voglio ricordare che lì in questo momento ha decine e decine di indagati, va bene, sì. Già parecchia gente in galera, già senatori di cui è stato richiesto l'arresto, vabbè, sono fuori dal PD, gli altri partiti sono uguali, vediamo la vicenda Lusi. Si è dimesso qualcuno? Beh sì, non no, si è dimesso molti, nessuno. Molti, beh, sono, sì, stati, molti quindi, sono stati allontanati si è dal partito. Qualcuno? Non si è dimesso nessuno, quindi noi invece, siccome vogliamo essere diversi, abbiamo voluto lanciare un segnale. Siccome oltretutto in quelle cariche lì, parto da me stesso, io non sono diventato parlamentare perché ero il più bello e del reame, perché cosa? Non sono diventato ministro perché ero il più intelligente di tutti, ma perché mi ha messo la Lega. Allora, se la Lega ti mette in una posizione e a un certo momento ti chiede di recedere da quella posizione, tu lo devi fare, se non lo fai sei fuori dalla Lega. Ma che cosa prova lei? La Lega funziona così. Io sono molto contento che funzioni così. Ecco, ma da che cosa prova lei umanamente per Rosi Mauro? Una persona che ha conosciuto molto bene, immagino, perché era al Senato, vicepresidente del Senato. Rosi Mauro la conosco da 20 anni. Appunto, cosa le è successo? Forse di più, sono sorpreso che lei abbia buttato alle ortiche una bellissima avventura che ha fatto con noi di tutti questi decenni, per un motivo che ancora oggi mi risulta incomprensibile, che io gli ho chiesto anche ufficialmente in Consiglio federale, ma c'è stata una risposta che non c'è stata sostanzialmente. Ancora oggi io mi stupisco che lei abbia sacrificato l'appartenenza alla Lega con, che cosa? Con la permanenza, perché ripeto, nessuno gli ha detto devi andare via di lì perché hai fatto azioni sconvenienti per motivi politici, per motivi politici addirittura delittuose. Questo non spetta evidentemente a noi giudicare, ma gli abbiamo chiesto di fare un passo indietro per motivi esclusivamente politici. Oggi ha detto, l'hanno scoperto nel 2012 o ieri, che sono Terrona, ma non è che nell'87 fosse Nordica. Lì fa parte poi del folklore di cui viene ammantata. Fosse stata bionda con gli occhi verdi non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Ma non l'ha chiamata più, non l'ha sentita. Cioè, come si fa a rompere 20 anni di rapporti? Vabbè, ma può succedere, quando succedono queste cose qui è normale che possa accadere. Magari anche abbracciarla fortissimo, quando la vede al Senato, l'abbraccia, Castelli l'abbraccia e le dice, ah, guarda... Ma guarda, non l'abbracciavo prima, non l'abbraccio adesso. No, ma perché? No, un abbraccio, io abbraccio Cruciale, tanto se vedi, guarda... No, guarda che una volta, io so dove vuoi arrivare, Vianello, durante Agorà, ha detto... l'amante di Rosi Mauro, e subito è stato ripreso, perché anche lì non è che uno può dire così facilmente quello è l'amante, quell'altro è l'amante. E chi ha insinuato? A parte sono fatti loro, quindi no, ma certo. Ma io mica ho insinuato l'amante, sono un abbraccio politico che non ci riguardano minimamente. Senta, ma come si chiama la sua barca? Barca Vento del Nord, Vento del Nord, come si chiama? Ma io non ho una barca, l'ho venduta quella che avevo. Ah, l'ha venduta? Si chiamava Acqua Dulza. Ah, Acqua Dulza, sì, Acqua Dulza. Acqua Dulza. Non ha più una sua barca, come mai? La crisi? No. La crisi? Anche. Ah sì, ma quando l'ha venduta? Poco tempo fa? L'ho venduta l'anno scorso a febbraio. Vabbè, insomma. E adesso come fa? Cioè l'anno scorso, febbraio del 2011. Sì, marinaio inglese. Beh, insomma, ci ha fatto dei bei soldi allora. Beh, può chiedere a lei, ma se la ospita. No, guardi, poca roba. La mia era una barca proprio tra virgolette molto di serie, quindi molto andante, costava come una bella macchina. Costava come una bella macchina, se la costava, insomma, 30.000-40.000 euro se la costava. Una cosa del genere. No, bene, una macchina, diciamo, come un Audi, una bella Audi. Siamo sugli 80, dai. Siamo sugli 80, vabbè, ma mica, non c'è niente di strano. Ma cosa, andrebbe con D'Alema, ad esempio, a fare una becco su Icarus di D'Alema, una bella... Beh, Icarus proprio... è una bellissima barca, credo che costasse più o meno 10 volte la mia. No, l'ha presa in comproprietà, però. La D'Alema. Croce, il rapporto era quello, 1-10. Ma comunque meglio non andare con i politici in barca, uno li vede già tutti i giorni No, beh, Icarus ha fatto delle ottime performance, ha vinto una 500.000, una Roma per tutti, mi pare, che è una regata molto, molto importante, quindi è una barca bellissima, io ho più modo di vederla, complimenti. Ma chi è più bravo, D'Alema o Castelli alla guida del veliero? E che ne sa, che ne sa come lo guida D'Alema? No, perché lo sa, si vedono, hanno commentato anche insieme una una regata alla televisione, sì, sulla, Castelli, sulla 7, sulla 7. Sulla 7, sì. Ottima. Senti, invece no, torniamo alla politica. Una bellissima esperienza che ancora oggi... Magari il futuro è quello, che ne sa. Dedicarsi totalmente alla vela, totalmente, non come commentato in generale, dedicarsi... Perché sento nelle parole di Castelli un po' di amarezza per la politica. Sì, secondo, sì, me non si, secondo me nel 2013 non si vuole più presentare, mi dica la verità. Beh, guardi, io ci sto pensando, perché poi è giusto che dopo tanti anni di battaglia si debba lasciare spazio anche ai giovani. Ma ci sta pensando, ce l'ha già detto una volta, ha maturato sto pensiero oppure no? No, però ancora no. Tra le ipotesi, devo dire che fino adesso non ci avevo mai pensato, nel senso che ho sempre cercato di essere rieletto. Questa volta il dubbio si è insinuato. Senta, chi le piace di più, Grillo o Monti? Sono due cose diverse, però se Grillo... sicuramente Grillo, perché fa molti meno danni. Ma addirittura, perché non ha le leve del comando, ma se Grillo fosse a Palazzo Chigi farebbe meno danni di Monti? Sì. Ma credo di sì, perché il 90% delle idee di Grillo sono inapplicabili. E dunque? Non riuscirebbe a fare i danni che fa Monti. Sono inapplicabili, però molte sono come slogan vicine ai vostri. Per l'euro. Fuori dall'euro. Diciamo che Grillo per certi versi incarna lo spirito, voglio dire, è fisiologico che in un sistema democratico, in una civiltà, in una società democratica, ogni 8 anni, e mi pare che il tempo cadenzato da noi sia il ventennio più o meno, nasca un movimento di pura protesta. All'inizio lo siamo stati anche noi, ma Bossi all'inizio non ricorda il Grillo, il movimento antisistema. Sì, ma Bossi non ricorda il Grillo di adesso? Bossi, no, di un tempo, no? No, assolutamente no, perché Bossi ha sempre detto cose serissime, Grillo... La sparata l'ha fatta pure lui, cose un po'... Però è chiaro che incarna quella parte di elettorato che comunque è contro il sistema, spesso anche giustamente, perché ricordiamoci com'era la classe politica all'inizio degli anni 90. Ma vi toglie anche un po' di voti, secondo me, Grillo. Com'è? Vi toglie anche un po' di voti adesso, Grillo, secondo me. Può essere, anzi penso proprio di sì, perché è chiaro che noi stiamo affrontando dal punto di vista dell'immagine un momento molto molto difficile. Io conosco un sacco di leghisti che votavano Lega, che adesso... Parliamoci chiaro, che in questo momento la nostra immagine è evidentemente appannata, molto appannata. Immagine appannata. Infatti la nostra scommessa è riuscire a uscirne anche attraverso queste operazioni di autopulizia che stiamo facendo. Ma si ricandida poi Bossi, che euro. Va bene, grazie, la ringrazio. Grazie, buona serata, pubblicità. Eccoci qua, 2017 800 24 0024. Gabriella da Perugia, buonasera. Eccoci. Non ho mai fatto la fila mezz'ora per aspettare un uomo. Ma ci sono due uomini qua. No, lei, ce ne saranno anche 20, ma lei è la... Io voglio Beppe Ma c'è, Grillo. Ma c'è un altro uomo qua, c'è il signor Parenzo, siamo due, Sì, va bene, sì. Ma lei è più... Più che? Lei ce la marcia in più, anzi due. Due marce in più. Non c'è niente da fare. Parenzo è più dolce. È più tenero, lei è un po', però c'ha fascino, c'ha carisma. Chi? Farenzo? Parenzo. Io lo volevo in televisione, ho telefonato 2 mesi, 3 mesi fa. A chi? Finalmente c'è andato, adesso lo ma voglio. Ma dove sto vado? Al posto di Monti. Ma chi? A lei. Ma Gabriella, siamo al manicomio qui, Cruciani, cioè, no, è il manicomio qui. Lascia parlare. Siamo al manicomio. Posto di Monti, Cruciani. Allora meglio Grillo, scusi, che Monti, almeno è ruspante. Vabbè, lei non è che essere ruspanti è una caratteristica per andare a Palazzo Chigi. Signora Cara, Monti ci smonta. Ma questo è buono. Fa venire troppo la tristezza, è una persona fredda. Vabbè, ho capito, ma non è che abbiamo avuto un presidente del Consiglio fino a pochi mesi fa che certamente non ci faceva venire la tristezza, abbiamo detto che c'eravamo stancati di questo cinema. Io voglio vedere Giuseppe Cruciani. No, ma per carità. Un ruolo importante. Ma quale ruolo importante? Ma lei, molto di più. Ho capito, signora Gabriele. Ma potrei fare il giarda di Cruciani. Io la ringrazio, ma nemmeno mia madre. Ma non deve ringraziare, che non è un'adulazione. No. È una constatazione di una persona. Sì. Che farebbe molto di più se avesse un ruolo importante. Ma io lo dico, io gli sto facendo la corte, io lo adoro, oh. Io non perdo, io vedo la sento la zanzara la sera alle 6:30, la notte alla mezzanotte risento la replica, è da scemi, eh. È abbastanza, si direi. No, sì. Piace troppo lei, ma solo lei, eh. No, ma signora Asco, io ho capito benissimo. Lei non lasci parlare Parenzo, come non interessa? No, Parenzo non mi interessa, su dai, non sono neanche la sola, che non interessa. No, ma lo capisco, io dico così. Giuseppe Cruciani, sì. Lei quando ha fatto quel programma su Rete 4. No, vabbè, adesso lasci perdere, signora. L'attualità, si ricorda? Beh, veramente non me lo ricordo. Ho chiamato tutta la Toscana per dirgli. No, come tutta Giuseppe la Toscana? Giuseppe Cruciani alle 21 e andai, oddio, e dopo mio. Le mie amiche. Oh, ma perché mi avete messo sta telefonata? Parenzo, no, devo dirle solo una cosa, anche se non gliene fotte nulla, cara signora, che io sono al suo fianco per questa battaglia perché riconosco la virilità di Cruciani e non la sua solo la virilità, non solo, c'ha l'intelligenza, c'ha siamo il charme, c'ha, sì. C'ha la grinta, sì, certo. Che lui, se gli danno il posto dei Monti, ma riforma l'Italia, sai chi la farà con lei, Cruciani? Come, scusi? Sai chi la paragono? A chi? Alla Alessandra Mussolini. Ecco qua. Rovinato definitivamente. Sarà ucciso Cruciani. Alessandra Mussolini. Ucciso. E insomma, l'ha dimostrato anche, in un certo senso. Ma ucciso, vabbè. Allora, lei si candidi. Mi candido sicuramente, come vuole lei, Gabriella, la adoro. È anche umbra come me. Grazie. Ascolti, Cruciani. Sì. Io gli ho fatto la corte per mesi. Finalmente. No, Gabriella, adesso non mi... mezz'ora qui e facevo. C'è uno specchio qui nell'ingresso. Che facevo? Che aspetti? Per me, io ma questo nemmeno mia madre, nemmeno mia madre mi dice queste cose. Mia madre, anzi, proprio non mi ascolta proprio. La Repubblica. Ma no, prima era presidente del Consiglio. Anche Napolitano era rincoglionito, è meglio no, via. Non ci può questo, ecco, è grazie meglio Gabriella, grazie. Bene, va bene. Va bene, le presento mia madre, Quanti anni ha lei, signora Gabriella? Scusi. 55. 55. La mia madre è un po' più anziana, devo dire, Cruciani, anziana, povera, Cruciani, la signora. Lei al posto di mezza età sarebbe faville. Sì. Perché quando vuole c'ha un carattere scherzoso. Ma non è che ironico. Quando non vuole. Oh sì, ho capito. Via, dai, vai. Ho capito, va. Ma non è che si. Mi diverte da morire. Monti, ma lo vede? Parenzo, intervieni tu, per favore. Lei conosceva Eichmann? Sì. Ah, no, è che sì, Eichmann, sì, perché che beh, c'entra? Ma lo chiamo Eichmann, Monti. Come, scusi? Lo chiamo Eichmann. Beh, Eichmann, adesso non esageriamo. Quello, quello famoso, sì. Della SS. Sì. Quello è uguale. Vabbè. No, SS, grazie Gabriella, grazie. Jacopo da Milano, buonasera Jacopo. Buonasera, direi la signora Assunta a questo punto. No, ma che Assunta, sì. No, la voto anch'io. No, io avevo chiamato per questo motivo. C'è stato tanto da dire su Beppe Grillo che ha detto ha fatto quell'uscita sulla mafia e lo Stato. Però io mi chiedevo, la parola pizzo non è spesso associata alla mafia? Perché Maroni oggi nel suo intervento ha detto che l'IMU è un pizzo di Stato, sì. Ecco, però su questa cosa nessuno ha detto niente, non si è fatto tanto clamore, quindi... Oggi non si è fatto tanto clamore, l'ha detto oggi e adesso vedremo le reazioni, eccetera. L'IMU è un pizzo di Stato. Sì, guardi, parole grosse sulle tasse le dicono tutti, cioè, ma guardi, io non sono uno di quelli che ha criminalizzato Grillo per quella sua frase lì, cioè... No, lei certamente no, ma tutto il resto. Sì, non c'è dubbio che c'è stata una speculazione mediatica su questa frase di Grillo pazzesca. Devo dire che parlare di mafia e nello stesso tempo mettere in mezzo le tasse sono due cose assurde. C'è un errore di fondo. Detto questo, se uno poi va a sentire effettivamente quello che ha detto Grillo, non era l'equazione che poi hanno fatto i giornali. Ma posso dire, e poi nulla di diverso da quello che dice solitamente, solo che adesso che sta prendendo questi voti, 6%, 7%, allora adesso la gente è tutta addosso a Beppe Grillo. Però io dico, abbiamo votato tante persone, abbiamo sbagliato fino ad oggi, proviamo, diamo fiducia a Beppe Grillo, vediamo, tanto un errore in più, un errore in meno. Abbia pazienza, adesso al di là di quello che ha detto, fiducia a Beppe Grillo, cioè, Beppe Grillo al Palazzo Chigi, lei se lo immagina. È un paradosso, però. No, è una follia, per dire, non paradosso. Cioè, noi cittadini cosa dobbiamo fare? A questo punto cosa possiamo fare noi? Andare a votare, perché la democrazia è questa, scegliere il momento in cui si sceglie. Ma chi? Quello che piacerà a lei, Jacopo? Cosa vuole? Cioè, sì. Ma non è che la democrazia, non è che ci sono altri metodi che sono stati studiati per scegliere. Ci sono quelli che si presentano attraverso delle regole democratiche, si presentano le persone, lei sceglie quello che le fa meno schifo, quello che le piace di più, e questi governano, non ci sono altri metodi. Se le fa schifo, 4 anni dopo li punisce, 2 anni dopo, 3 anni dopo, punto. Non ci sono altri metodi, non c'è la piazza, non c'è l'agorà, non c'è internet, come dice Grillo, non ci sono i referendum ogni 3 secondi, non ci sono le scelte popolari ogni 2 secondi, non è così, cioè non funziona in questo modo, cioè, la democrazia funziona, ma non funziona neanche nell'altro, ma non funzionerà nell'altro, nel senso che comunque adesso, voglio dire, non è che siamo alla catastrofe termonucleare, intanto cioè, siamo un paese che nonostante tutto è dentro il G8, tutti i vertici internazionali, cioè, non è che adesso, non siamo l'Argentina di 20 anni fa. Non è che stiamo andando allo scatafascio di tutto. È un paese che ha i suoi problemi come le grandi democrazie europee. Tutte. Andrea da Pesaro, buonasera. Buonasera. Io sono talmente di cattivo umore che stavo per decidere di chiudere, ma insomma un'occasione come questa un'occasione come questa dica, vada raramente. Sentite, io volevo dire due cose, anzi veramente di più, ma non me le farete dire, poi non è possibile evidentemente. Allora, la prima cosa è questa: un mese fa, visto che io avevo una certa predilezione per il dottor Forbice, però voi siete molto più divertenti e quindi la verità dei fatti è che poi alla fine si ascolta la zanzara, io ebbi la cattiva pensata di parlare male o meglio di criticare il cattivo gusto di affidare da parte del gruppo Ligresti 600.000-700.000 euro di consulente allo studio La Russa di Milano, e il senatore Gasparri si permise, dopo che voi chiudeste la mia telefonata, di darmi nell'ordine prima del presuntuoso, poi di uno che dice sono stupidaggine, e poi di dirmi che ero peggio del figlio di Ciancimino. Allora io credo che io chiaramente gli ho scritto, l'ho scritto vabbè, allora però risolvetevela tra di voi sta cosa, Andrea, perché adesso ci sta riproponendo la questione delle consulenze ai La Russa da parte di Ligresti? No, perché semplicemente il senatore Gasparri, ma chi se ne frega, nella sua incredibile arroganza pensa di poter dire quello che vuole alle persone per bene. Va bene. No, io quello che invece quello che volevo dire era la questione di Amato. Sì. A me sembra che sia una quasi una ricerca volontaria di sfida nei confronti della gente che non ne può più. L'idea di proporre che uno come Giuliano Amato, che quando era presidente antitrust non si è accorto di nulla di quello che stava succedendo, ha fatto finta di non accorgersi, e dovrebbe essere lui che aveva accesso libero al frigorifero di Craxi, no? Però poi un po' si è vergognato, perché come era di Craxi mi ripeto. Sì, però adesso per criticare Amato ci sono cose molto più serie che non ricordare il fatto che sia stato il numero 2 del partito socialista. Non sono seria, ma scusi, lei ieri ha detto giustissimamente che Bondi è sicuramente uno dei manager più qualificati che l'Italia abbia, ma che un gruppo di tecnici, di professori, di consulenti debba usare un consulente per fare un lavoro che loro non hanno il coraggio di fare è abbastanza paradossale. Ma però certo, Bondi questo sicuro ha un curriculum specchiatissimo, è vero? E ricorderei che quando è andato fuori, va bene, dalla adesso, Parma, Andrea, adesso... Non ha chiesto neanche una lira di ho capito benissimo, adesso però insomma, non possiamo, un curriculum che fa andare in bestia credo il 90% degli italiani. Va bene, grazie Andrea, abbiamo la pubblicità, torniamo subito. A lei non piacciono i tecnici, i super tecnici scelti dai tecnici, non piacciono nemmeno a me, a tra poco. Salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba butto spesso il tuo sicori, corica, non voglio. Eccoci qui, 800 24 0024, Silvestro da Cagliari, buonasera. Buonasera a voi. Vada. Allora, niente, ho visto un attimino Bossi al telegiornale che, insomma, ho trovato abbastanza patetico tutto il discorso che fa. Insomma, la Lega alla fine si è comportata come tutti gli altri partiti, e vedere Bossi che in maniera così patetica si vuole pure ricandidare a segretario mi sembra un po', un po' così, un po' fuori luogo. Volevo sapere cosa ne pensate. Beh, voi, Silvestro, insomma, abbiamo detto, insomma, mi sembra piuttosto paradossale, cioè la ricandidatura di Bossi, boh, insomma, giochi interni alla Lega. Vediamo i militanti cosa ne pensano. Secondo me alla fine non sarà lui il segretario, sarà eletto Maroni a giugno quando faranno il congresso. Elisabetta, i barbari sognanti. Elisabetta da Salerno. Ha smesso di sognare i barbari. Elisabetta? Buonasera. Dica. Senta, io sono una grande invalida e mi permettevo di dire al ministro Castelli. Un attimo solo, un attimo solo. Vada, vada. Allora, mi permettevo di dirgli che purtroppo quando succedono alcune disgrazie nel tipo di quello che è successo, e io mi dispiace di tutto questo, però non tutti abbiamo la funzionalità del cervello uguale e quindi per cui non si può, non possiamo comparare Napolitano a Bossi, ma non per cattiva volontà sua. Un attimo solo, un attimo, un attimo. Non ho mica capito. È il paragone fatto da Castelli prima, se è Napolitano. Ah. Il telefono che è quella. Il mio non è. Telefono di chi questo? Padre Locurto. Padre Locurto. È quello che ricorda voleva fare. Padre Locurto, voglio dirgli due paroline a Padre Locurto. La messa in onore di Mussolini, il signor Locurto. Sì, voglio dirgli due paroline. Due paroline. Caro amico Locurto, come Pio XII, forza. Padre Locurto. Anniversario, oggi ore 19 in Catania, chiesa San Gaetano alle Grotte, santa messa in suffragio del già capo del governo Benito Mussolini. Onore e fedeltà. Catania, 28 aprile 2012. C'è poco da ridere qui, Perché ridi? Bisogna dargli due paroline a Locurto, al prete. Elisabetta, Elisabetta, vada. Ti diverti a testa. Allora, quello che volevo dire è inutile metterci a fare delle determinate cose. Lei vuole dire Bossi ha molti più problemi fisici rispetto a Napolitano, dunque non si possono fare questi paragoni. Va bene. Bravo. Voglio dire, uno di noi, certo, anch'io vorrei essere come tutti voi, ma purtroppo i problemi ne ho e li dobbiamo accettare per così come sono. Va bene, Elisabetta. Riccardo da Cremona, buonasera. Carissimo, grazie per avermi fatto parlare di me stasera. Allora, intanto saluto. Lei è col viva voce innanzitutto, per cui deve togliersi il viva voce e mettere il telefono normale, grazie. Riccardo? Mi sente? Deve togliersi il viva voce. Ho tolto viva voce, mi sente lo stesso? Sì, la sento, non l'ho tolto. Ecco, allora, dunque, io la cosa che volevo dire è questa, molto semplicemente. Sì. È ritornato di nuovo Giuliano Amato e sono ritornati i vecchi di 70 anni che nell'Italia hanno bloccato l'immobilismo da una vita, adesso sono tornati. Non la sentiamo più, Mirko da Como, Riccardo. Mirko. Buonasera, dica. Buonasera Cruciani e Parenzo. Vada, vada, vada. Si sente? Sì, la sento, vada. Ok. Allora, no, niente, volevo commentare la cosa di Bossi, eccetera. Allora, io ho più o meno l'età di Renzo. A parte avere dei coetanei preparatissimi che fanno i centralinisti e lui che fatica a prendere il diploma e prende quanto un anno del loro lavoro, io se votassi Lega e non la voto mi sentirei preso per il culo, scusate il termine. Poi mi stupiva il fatto che, appunto, essendo la Lega portatrice del vessillo della giustizia, dell'onestà, eccetera, ma a me sembra più che altro un'azienda dove il capo, dove la famiglia Bossi praticamente regna. Sì, beh, non più, non più. Ho capito, ma sentire uno che dice tutta la Lega in caso di ricandidatura spalleggerà Bossi. Cioè, che cos'è? Che vuole fare Mirko? Fino adesso sono state le regole della Lega. Si pensava che le cose fossero cambiate, in realtà questa ricandidatura di Bossi Ma evidentemente è cambiato davvero poco, perché non interessa cambiare e continua così. Ci credo che Castelli dice abbiamo dei problemi di immagine, certo. Giorgio da Modena, grazie. Giorgio da Modena. Ragione, infatti Maroni non ha detto nulla. Pronto? Ancora. Sì, Giorgio, dica. Ah, sì, ma io... Mi hanno chiamato adesso, ma è lo stesso discorso di quel signore che mi ha preceduto. Io ritengo che sia una cosa veramente vergognosa. Ma che cos'è vergognoso? Ah, la ricandidatura di Bossi, dice. Sì, ma io dico anche la gente che applaude, ma io non so, ma non hanno visto che razza di casino hanno fatto, insomma, io non lo so, è una cosa inconcepibile. Guardi, io credo che anche voi giornalisti non è che siete un po' leggeri con questa cosa. Ma noi che ce frega della ricandidatura di Bossi? Scusi, non prendiamo nessuna posizione, almeno me ne può fregare meno. Io osservo le cose, le critico oppure non le critico. Ma insomma, in altre occasioni penso che siete stati un pochino più pesanti. Insomma, qui, ma che devo essere pesante? Si ricandida Bossi alla leadership della Lega, perché dovrei essere pesante? Scusi. Non fate nessun commento. Non fate ma come nessun commento? Lo stiamo dicendo da due ore, Giorgio, ma di che sta parlando? Vabbè, io non vi ho sentito fino adesso. Quindi, ecco, appunto. Chiaramente. E allora che dice? Non facciamo nessun commento, non ha sentito e dite non fate nessun commento. Beh, io dico roba da matti. Un attimo solo, un attimo. Ma dove sarà finito sto Padre Lo Curto? Padre Lo Curto? Gli ha dato uno scappellotto, spero, Padre Lo Curto. Un buffetto gli ha dato. Ancora? Padre? Chi è? Padre Lo Curto? Chi parla? Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, come sta? Radio 24? Sì. Che cos'è Radio 24? È una radio, la radio del Sole 24 Ore, qui alla Zanzara. Come sta? La disturbo? No, sì. Senta, ma com'è questa storia che lei ha fatto una messa in onore di Mussolini, scusi? Non è una messa in onore di Mussolini, è un suffragio. Beh, un suffragio, insomma, quello che è. Non è un morto come gli altri? È un morto come gli altri, certo, non c'è dubbio, però sa... No, ma che vuole? È permesso a lei? No, è permesso a me, per carità, lei può fare quello che vuole. Come l'ha fatta per lui? Come l'ha fatta per lui? Vabbè, è caduta la comunicazione. Come l'ha fatta per lui? Oggi funziona così, che dobbiamo fare? Proviamo a richiamarlo, per favore. Mi sente, Don Lo Curto? No, non mi sente. Personaggio pazzesco. Beh, che non è un morto come gli altri? Beh, sì. Certo, non c'è dubbio. Con chi stavamo parlando? Ciro da Napoli, allora. Ah, mi dispiace, ero rimasto al brufoletto di Parenzo e lo volevo tranquillizzare perché brufolo non... Un attimo brufolo, solo, Parenzo è sempre? Pronto? Don Lo Curto, eccoci qua, ma che... Scusi, è caduta la linea. Sto telefonando lei. È caduta la linea, mi scusi. Ma lei telefono da un telefono o da qualcos'altro? Beh, dal telefono, certo, come telefono. Si chiama col telefono? Oggi, internet, com'è possibile che cade subito la linea? E che ne so io? Sarà lo spirito del signor Mussolini, sarà quello evidentemente. Sarà lo spirito di Mussolini che... Come, scusi? Dove si trova la sede di Radio 24? A Milano, signor Lo Curto. Ah, nella Longobardia. Nella Longobardia è bellissimo, la Longobardia. A Piazzale Loreto si trova, a Piazzale Loreto la sede, a Piazzale Loreto. Mi interessano queste storie. Scusi, signor Lo Curto, ma mi spieghi un po' questa cosa. Il suffragio in onore di Mussolini, perché il suffragio? No, il suffragio significa, lei lo sa che nel cattolicesimo sì. C'è vergogna. L'odio, no? È una messa di suffragio perché la sua anima sì. Va a dire, nient'altro. Però scusi, lei ha detto che Benito ha solo commesso alcuni errori come le leggi razziali e la guerra. No, io ho detto che ha commesso degli errori. Pochi errori. Figlio del suo tempo. Sì, sono errori che tutti possiamo commettere, no? Beh, quelli sono errori gravi, però bisogna anche comprenderlo. Era sì. Una situazione, figlio del suo tempo. Certo. Non so se capisce che significa figlio del suo tempo. Sì, sì, più o meno, sono ignorante, ma lo capisco. Oggi penso che si sarebbe comportato diversamente. Ma lei lo di porci come sono gli italiani oggi ne avrebbero bisogno, dai politici delinquenti a quelli che abbiamo oggi, parassiti, prostituti della finanza internazionale. Sì. Questi ne avrebbero bisogno di uno come lui, no? Purtroppo non ce l'abbiamo. Ci sarebbe bisogno di uno come oggi. D'Europa è una vergogna. Sì, oggi ci sarebbe bisogno di uno come Mussolini, insomma, in fin dei conti. No, non in quel senso di fare la dittatura. No, no, allora come? Ma ti pare che come grinta, come insomma sistemare un po' queste persone. La grinta di Mussolini ci vorrebbe. Beh, insomma, questi strumenti, che è una cosa diversa, ma non si vergogna. Scusi, di signor Locurto, però diciamo la verità, sospenderla. Lei è un po' nostalgico di Mussolini, questo diciamolo tutto. No, ma come no, come no? Non sono nostalgico di nessuno, io penso che per la Sicilia è stata una disgrazia il 1860. L'hanno provato un po' diversamente, io penso. Vabbè, adesso lascia perdere il 1860. Però è il paese più sporco che c'è in Europa, assolutamente. L'Italia? Sì, più corrotto che c'è. Più corrotto che c'è. Scusi, però lei ha detto che Benito era una brava persona. Io non ho detto che era... Questa cosa le sta dicendo lei. No, la trovo riportata su... Non avete molto da fare. Lei lavora? Beh sì, sto lavorando più o meno. Faccio il giornalista. La volta, sa, la fantasia... Gli italiani sulle speculazioni ci lavorano molto. Gli italiani vivono l'età della saliva, parole. Scusi, scusi, là nel cartello lei ha messo anniversario in suffragio del Giacomo. Non l'ho messo io questo. E chi l'ha messo? Non lo so. Ma non lo sa, lei ha fatto la messa di suffragio e non lo sa. Io anzi gli avevo detto di non scrivere niente, ogni anno loro chiedono di fare questa messa in suffragio di Mussolini, quelli sì sono in parte nostalgici, è vero. E lei invece no, lei invece no. No, per carità, lei non c'è. No, non mi interessano, la grinta sì ce la vedrei bene qualcuno di quel tipo, ma non, ognuno può avere le sue idee. La grinta di Mussolini, Don Locurto, hai capito Parenzo, Don Locurto? Guarda, io sono nel Mediterraneo, siete voi del nord che usate questo don che a me non piace proprio. Padre Locurto, come la devo chiamare? Padre, la chiamo padre. La Grecia, la Sicilia, la Sardegna, la Spagna si usa padre. Padre. Italiani che usate don. No, beh, italiani, perché lei che è? Scusi, non ho capito. Sto scherzando. Scherzando. Le passo il signor Parenzo, con mio collega. Parenzo, di qualcosa a padre Locurto. No, sono qualcosa da dire, che sono semplicemente allibito di un padre, un prete, un parroco, un don chiamato... Lei può essere allibito quanto le pare piace. Ma anche vergognoso. Ma lei non può giudicare, parlare su una persona che non conosce. Ma io giudico su cosa che ha letto. Ma io giudico su questa vergogna che lei ha fatto, su questa vergogna che lei ha fatto. Può giudicare quanto vuole. Io giudico lei. Voi farete altre cose. Io non sono né fascista né comunista né niente. Non c'era nessun bisogno di fare questa cerimonia in onore di un dittatore, ha capito? Non è un onore, è il suffragio, non so se lei è cattolico, non se le conosce. No, ma non c'entra il suffragio, conosco solo il suffragio universale diretto io di suffragio. No, il suffragio lo si fa per i morti, quando fanno l'anniversario, quando le si vogliono ricordare, niente di più. Comunque, lei ha sognato... Una preghiera impetratoria, perché gli si chiede la grazia a Dio che lui proceda, questo è... E come deve procedere, scusi? Lo deve chiedere lei a Dio, noi pensiamo, la Chiesa pensa che la messa, le preghiere aiutano i nostri defunti ad andare verso Dio. Pensi ai fedeli della sua parrocchia, anziché pensare al sanguinario Mussolini. Pensi a quello. La mia non è parrocchia. Appunto, neanche la parrocchia, cioè, appunto. Il suffragio è proprio per questo. Ma scusi, ma lei ha detto per Benito non potevo tirarmi indietro, la dica tutta la verità, lei è mussoliniano, è fascista, sul serio? No, lei non mi conosce, non sono affatto fascista, se lei si sbaglia. Ma se lei ha detto per Benito non potevo tirarmi indietro. Fascista né comunista, tantomeno comunista italiano, che sono veramente degli ipocriti comunisti italiani. Se è comunismo quello vero, magari. Scusi un attimo, ma allora è mussoliniano, ha un'adorazione per Benito Mussolini? Questo lo dice lei. Lo dico io, vabbè. Lo dice lei questo, se lo tenga per lei. L'adorazione ce l'ho solo per Dio. Sia ben chiaro. E per Mussolini che cosa prova allora? Niente. Niente. posso ammirare alcune cose, si è interessato molto per le pensioni, la società, sì, amava certo. molto il popolo, non si è arricchito alle spalle della povera gente, non ha lavorato per le banche, per la certo. finanza internazionale, certo. tutto quello che stanno facendo oggi, no? La finanza internazionale, il complotto, certo. Gli ebrei che governano il mondo, chiaro, vero? La finanza di mio nonno, scusi. Scusi, padre Roberto, ma lo sa che Parenzo è ebreo? Chi? Io ammiro molto gli ebrei, io non sono contro gli ebrei. Bene. Sono preoccupato, quando uno dice io li ammiro molto, io mi preoccupo sempre, guarda. Sì, certo, sicuramente. Allora, traffico, torniamo tra un secondo. Ci scusi un attimo, abbiamo una piccola interruzione, dobbiamo poi riprendiamo, signor padre Roberto. Eccoci, allora, Ciro da Napoli, Ciro. No, dopo la telefonata di Roberto, veramente mi rendo conto che questo è un paese molto simpatico, un paese bello in cui vivere. Niente, io appartengo, secondo me, a una delle quattro categorie che hanno le maggiori responsabilità in questo paese. Aspetti un attimo, Ciro, scusi, ci parli pure lei, ci parli lei, anzi, Ciro, sono un parrocchiano di Catania, ci parli lei, Ciro. Padre Locu. Padre Locurto, che non risponde più naturalmente perché si è accorto di essere stato pizzicato. Signor Locurto. Don Locurto. Padre, ha detto. Vabbè, donna forse gli piaceva di più. No, niente. No, gli piaceva padre, ha detto che donna non si usa. Il termine donna Niente, non risponde. Sono andato a fare un'altra messa per qualche altro sanguinario. sì. Vabbè, Ciro, allora non risponde. Allora, dicevo, io ritengo di appartenere ad una delle quattro categorie che stanno rovinando questo paese, che sono politici, giornalisti, magistrati, e la categoria a cui appartengo, che è quella dei dirigenti pubblici, di cui non parlate mai. Ho pensato, ascoltando posso? Sì, sì. Ascoltando quello che ha detto Grillo, che è una grande sciocchezza, no? Di questa criminalità organizzata che non strangolerebbe i cittadini, parlando di una percentuale che è quella del 10%, che in realtà nessuno lo dice, ma tutti lo sanno, che il 10% è la percentuale che prendono i dirigenti pubblici corrotti. Tra l'altro dirigenti pubblici che sono quasi tutti, se non tutti, asserviti al potere politico. In questo paese, a mio modo di vedere, manca proprio il filtro della dirigenza pubblica. Questo è il grave problema. Vabbè. So che sono fuori tema, mi dispiace. No, ma non è una questione di fuori tema, il filtro della dirigenza pubblica, non riesco a capire che cosa significa, Ciro. Qui si parla in maniera molto esplicita, molto chiara, non è che si usano queste cose, il filtro della dirigenza pubblica. È il potere manageriale, quello che gestisce le strategie dell'esecutivo, che esiste in tutti i paesi del mondo, tranne che in questo paese. Ma non ho capito a cosa si riferisce lei, non ho capito, Ciro. Mi riferisco al fatto che la dirigenza pubblica... Ma quale? Che vuol dire? Qual è la dirigenza pubblica, i funzionari, statale, che cosa? La dirigenza dei comuni, la dirigenza allora che cosa bisognerebbe fare? È una dirigenza che non è autonoma, che è asservita al potere politico e che è indispensabile per la corruzione. È asservita al potere politico. Va bene, d'accordo, questo. Grazie. Anna da Roma. Buonasera. Buonasera. Volevo ringraziarvi molto e dirle che io sono una di quelle che si vuole ribellare, che questi politici si sono accorti che il malcontento cresce, sì. In cui uno è per le pensioni, quell'altro di botto si sono svegliati tutti, sì. Quello vuol combattere per allora io da qui al 13 molto probabilmente qualcun sì. altro uscirà, per esempio io auspico che Giannino faccia un partito, guardi la prego glielo dica. Avrebbe una marea di voti, guardi, io stessa gliene porto 2000, io sono una passionaria. Ma abbiamo Giannino di oggi che era scatenato, mi hanno detto, un pezzo di Giannino di oggi, non c'è? Purtroppo non l'ho sentito. Era scatenatissimo. Mi dispiace, ma non l'ho sentito, ma guardi, chiunque lo sente rimane affascinato. Anche voi siete deliziosi, per carità, però lui proprio ci mette l'anima, è una cosa che ti prende di... Io secondo me sarebbe un partito che non si metta con questi maledetti, con nessuno di questi, magari con voi. Il partito di Giannino. Sarebbe la fine del mondo, guardi. La vera rivoluzione liberale sarebbe. Va bene, non lo so, io lo dico, che vuole che gli dica? Lo sa da solo che avrebbe tutto il nostro appoggio, l'appoggio della zanzara. Andrea da Roma. Anzi, bisognerebbe pensare anche di presentarsi alle elezioni, secondo me. Andrea, dica. Premier Giannino. Senta, niente, io innanzitutto complimenti per la trasmissione. Poi sì. Volevo dire che io appoggio appieno il governo dei tecnici, seppur non piacendomi. secondo me praticamente con questa classe politica non possiamo pretendere altro, e ben venga anche un super tecnico come quello della Parmalat, in quanto secondo me i politici, come vede, sì, ho capito, ma il problema è quello dell'Alitalia, sì, ma l'Alitalia l'hanno mandato Andrea, ma io voglio capire una cosa, sono tutte alchimie politiche, cioè hanno scelto Bondi perché non sono in grado di dire ai partiti facciamo come diciamo noi, cioè sono tecnici, decidano loro direttamente, perché c'è bisogno di chiamare un altro tecnico, hanno tutti i ministri, capire, le competenze necessarie, perché c'è bisogno di un altro per mettere i partiti? È semplice, perché se uno, se ci sa un partito purtroppo ha un elettorato a cui rispondere, e come ha detto Casini, ma è la stessa cosa, che dirsi voglia, scusi, ma praticamente nessuno deve rispondere a niente, Monti non deve rispondere a nessuno, allora perché hanno ambizioni politiche, allora, insomma, perché scelgono uno per decidere dove bisogna tagliare, perché? Perché tra l'altro 4 miliardi, ma che la riforma Giovannini, ma che c'entra? 4 miliardi, 4 miliardi. Ma poi scusami, ci sarà sempre qualcuno che presenterà un decreto. Una bazzecola, 4 miliardi. Ci sarà, Bondi scriverà un decreto che poi dovrà presentare comunque il ministro, quindi di cosa, e che comunque dovrà passare per il Parlamento. Di cosa parliamo? Secondo me, allora, un tecnico quotato che ha un'esperienza nel settore dimostrata, lui da cose, ma che non è vero, non ha nessuna esperienza nel settore pubblico, ma non è vero. Ma che c'entra la Parmalat? Lo stesso Giannino ha scritto nel suo blog, se non mi sbaglio, che quando si tratta di burocrazia, non mi pare che Bondi si sia trovato, come dire, no, a suo agio. Andrea, guardi, su questa cosa dei tecnici che chiamano i super tecnici, secondo me lei sta prendendo una cantonata. Quasi in conclusione, Mughini sulla Santanchè Iotti, sentite. Per quanto riguarda Laminetti non era un'icona della politica precedente, era un'icona di un'altra cosa. E infatti una grande pensatrice ha fatto un paragone tra la Nilde Iotti e Laminetti, un paragone dopo il quale la pensatrice sa stessa avrebbe dovuto essere privata della cittadinanza italiana. Rita da Modena. Grande Mughini, sempre grandissimo. Pronto? Vada. Niente, volevo dire che lei sarà anche un giornalista, lo è senz'altro, ma è diventato ultimamente un giullare assieme a quell'altro suo signore vicino. Sì. Basta, volevo dire solo questo. Bene. Bene. Avete perso. Siamo molto contenti. Aspetti, il circo. Bene, sono contenta anch'io per lei, alleluia, abbiamo un giullare in più. Sì. Ma venga al circo. Buonasera. Venga al circo, signorita. Venga al circo, cioè veniamo presto a Bergamo, se il circo c'è, cioè, giovedì a Bergamo il circo. Perché non viene? Ma povero bamboccio. C'è il circo. Perché povero bamboccio, signora? Pronto? Franco dalla provincia di Chieti. Richiamala subito questa. Lo so. Franco dalla provincia di Chieti. Buonasera, mi sentite? Sì, vada. Ah, bene. Senta, volevo riprendere un po', perché lei mi state simpatici, a differenza, sì, della signora. Perché fate critica a 360 gradi e questo mi fa molto piacere, però ogni tanto ci stanno qualche piccoli problemini, per esempio prima ce ne sono tanti dei problemi, chi non ce li ha, si parlava di Grillo che non sarebbe la persona adeguata a Palazzo Chigi, no? Sì. E su questo possiamo anche essere d'accordo, io non sono d'accordo perché abbiamo tenuto un Presidente del Consiglio che è incommentabile, insomma, soprattutto lei dice se c'è stato Berlusconi ci può andare anche Grillo. Beh, direi di sì. Non è proprio la stessa cosa, no, forse meglio Grillo, assolutamente. Io sono vivo a Vasto, ho la foto di Vasto. Che c'entra la foto di Vasto adesso? Beh, ho partecipato, ho visto personaggi che di politica ne masticano da tanti anni. Allora? Persone apprezzabili, ma è stato fatto anche Grillo ed è stato apprezzabile anche lui, cioè voglio dire, a volte certi vi riempite la bocca di democrazia a volte, no? Ed è giusto avere, sì, allora, la democrazia, però nello stesso momento non può dire che poi Grillo, io non voto Grillo, ma io non ho detto niente, per me Grillo se piglia il consenso va al governo, non mi importa, cioè. Benissimo, perfetto. cattivona, cattivona? Amore. Cattivona, cattivona, cattivona. No, ma non sei cattivona, sei cattivissimo. Non stare lì così, mettiti comodo, comodo. Lavoratori! Amore. Cattivona, cattivona, cattivona. No, ma non sei cattivona, sei cattivissimo. Pronto? Love of my life. Allora. E siamo così arrivati, caro Parenzo, alla conclusione. Ci sentiamo. Cattivone, cattivone, cattivone. Puntuali domani 18:30 alla Zanzara. Ciao. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.